Zanzara di Giuseppe Cruciani. Dite ai vostri figli di stare a casa. Quelle manifestazioni sono frequentate da potenziali assassini, vanno evitate. Maurizio Gasparri, l'avete sentito? Parenzo, aiuto, l'ambulanza! No, no, no, aspetta, no, fermo con l'ambulanza per Gasparri. Fermo subito. Con l'ambulanza per Gasparri. Volante 1, piazza Montecitorio? No. Attenzione, no, attenzione, no. Attenzione. Potenziali assassini. Potenziali assassini, ho capito. Ma come potenziali assassini? Potenziali assassini. Riflettiamo un attimo. Anche su quest'altra fase, se c'è da riflettere. I violenti sono nei centri sociali. Chi sono e dove sono, secondo lei, questi capi dell'estrema sinistra collusi con il terrorismo? Con la violenza di massa che si dispiega nelle strade, sono nei centri sociali. Io ho letto l'altro giorno in Parlamento nomi di centri sociali che nei rapporti che vengono inviati al Parlamento dai servizi di sicurezza, dalla polizia, quindi sono atti pubblici, non sono atti riservati, sono stati elencati e indicati e tutti li conoscono città per città. Ieri aveva detto come il 7 aprile del 79, in realtà ha detto il 78, si è sbagliato di un anno, arresti preventivi per fermare i violenti. Moderato liberale. D'Alema, non commento mai Gasparri. È un giudizio così caustico. Non commento mai le dichiarazioni del presidente Gasparri. Lo ha liquidato in questo modo. Non commento mai. Sì, anche il tono, c'è da riflettere anche sul tono. Non commento mai le dichiarazioni. Con una sorta di disprezzo. Anche il baffo che trema, vedo. Poi c'è il nostro amico Pinguino Belisario. Gasparri terrorista, capogruppo al Senato dell'Italia dei Valori. Questo è il commento, diciamo, più banale che si può fare. Comunque, via. L'Italia dei Valori ritiene il senatore Gasparri l'autentico terrorista politico che vuole incendiare il clima del paese. C'è anche Sansonetti, Piero Sansonetti, che dice: ma come si fa a commentare Gasparri? Più o meno sulla stessa lunghezza d'onda di D'Alema. Ma Gasparri adesso francamente è difficile da commentare, perché dice delle stupidaggini talmente grandi che non... Adesso, poi fra l'altro... Lui mi pare che aveva gli assassini, lasciamo, come faccio a commentare una cosa del genere? Non sei, no, però stiamo parlando del capogruppo del sì, vabbè, però, al Senato, beh, ma è Gasparri, degli esponenti però, più importanti. Bisogna stare attenti anche con le parole, capogruppo, insomma, cioè, è Gasparri. Questa è la più bella, è Gasparri. Sì, capogruppo del PD è Gasparri. Forse meglio di D'Alema. Questa è meglio di D'Alema, devo dire la verità. È meglio della reazione di D'Alema, perché D'Alema è rimasto, sì, sempre caustico, eccetera. Sì, no, più che altro sprezzante. Lui invece dice: vabbè, è Gasparri, insomma. Che volete fare? 800 24 00 24, questa è la Zanzara. Caro Parenzo, se non ve ne siete accorti, ma credo che ve ne siete accorti tutti. Primo ospite della serata, una persona che ha fatto molto discutere, caro Parenzo, nei giorni scorsi, soprattutto per la questione della fiducia, è stata anche minacciata, pare abbia la scorta, una cosa seria dunque. È stata soprannominata, lei però protesta contro questi appellativi perché dice: io non ho niente a che fare con quelle persone. Miss Cepu, ma su questo, ripeto, lei contesta proprio questo tipo di appellativo perché non ha nulla a che fare con il proprietario della famosa università. Katia Polidori, buonasera. Buonasera a lei, buonasera. Come sta? Bene, bene, grazie. Senta, ma questa storia della scorta è vera o non è? Cioè, gli hanno data la scorta o è ancora... No, è vera, e peraltro non venendo io da un mondo abituato a queste cose, per il momento male ci convivo, cioè quindi esco poco in questo senso. Cioè ci convive male, non, le stanno troppo in mezzo ai piedi, beh, no? Insomma, io non sono abituata alla scorta, non mi era mai successo in tutta la mia vita e immagino che abbiano avuto degli elementi per darmi una scorta. Ma lei quali elementi ha dato? Minacce? No, io sono andata semplicemente a fare una denuncia perché arrivavano delle telefonate anonime, non ho sempre risposto io le prime volte, io poi insomma altre persone che erano vicino a me, delle telefonate poco carine e poi da lì loro sono andati a vedere anche nelle mail, in Facebook. Questo quando è iniziato, diciamo? Quando subito dopo la fiducia o anche dopo prima? La fiducia, più o meno un'ora dopo all'incirca. Cioè un'ora dopo la prima niente, lei insomma non ha mai ricevuto minacce o cose di questo? Oddio, guardi, le posso dire che prima erano, e questa è la cosa ridicola della situazione, prima erano i cosiddetti, tra virgolette, Berluscones, nel senso che dopo la campagna di Libero, che eravamo stati tutti quanti messi in fila con il nostro indirizzo mail sotto schedati, sì. Anche lì erano arrivate delle minacce, non così cattive però, devo dire, insulti, ingiurie, qualche minaccia, ma niente di così. Beh, però insomma, questo subito è curioso. Dopo si sono scatenati gli anti-Berluscone, so da una parte o dall'altra evidentemente ero destinata. Beh, insomma, questo è curioso, no, Parenzo? Prima, quando Libero ha fatto quella lista di, diciamo, di finiani traditori, sono arrivati insulti, lei ci sta dicendo non troppo forti, diciamo, non no, troppo. Ingiurie, qualche minaccia velata, obiettivamente non tanto da... Ma quante mail ha ricevuto lei? Quante mail ha ricevuto la polizia postale? Quante mail ha ricevuto dopo Libero, diciamo, dopo l'iniziativa? No, tante. Aveva usato la posta, tantissime, molte più, devo dire, ecco, obiettivamente molte più di quelle ricevute ora, però quelle di ora sono molto più cattive. Senta, ma sì, le ha prese sul serio? Evidentemente la polizia le ha prese sul serio. Evidentemente sì. Ma nelle telefonate cosa le dicevano? No, le telefonate, la si prima, può dire? Quella che ho preso io, l'unica, poi dopo davo il telefono ad altre persone che erano vicino a me, le telefonate erano stai attenta, nasconditi, te ne pentirai, le solite cose insomma che si dicono Vabbè, minacciare le persone, però a me sembravano tratte da un film, le dico la verità, perché insomma non sono abituata a queste cose. Senta, chi è che le ha dato della, si può dire in radio, Parenzo? Voglio dirimere questa questione. È vero bisogno, perché è un caro amico e voglio difenderlo. Ma è vero che qualcuno le hanno dato? Della troia, è vero? Allora, si dice, si narra, perché io aspetta. Non ero lì in quel momento, Si narra che... Questo durante il voto, durante il voto. Una discussione peraltro partita tra i banchi della Lega e di FLI, il collega Conte, subito dopo la mia votazione, abbia detto questa cosa. Lui l'ha smentita immediatamente, siccome il mio vicino di banco e sapeva esattamente cosa avrei votato, sì. Perché chiariamolo... La sera prima tutti i miei colleghi, e poi da mesi, io dal 29 di luglio, dicevo che condividevo il percorso di FLI, ma che mai avrei votato la sfiducia al governo. Il mio collega, che lo sapeva benissimo, per cui non aveva motivo di stupirsi, Conte di Futura Libertà, ha detto una cosa del genere. Io che lo conosco molto bene, so che non è vero, mi hanno spiegato che è nata una rissa, hanno cominciato a litigare, un leghista ha detto qualcosa a lui, si è infilato in mezzo qualcun altro e vabbè, è scoppiata la rissa. Dunque lei non ci crede che lui abbia detto questa parola? Io non ci credo nella maniera più assoluta, lui peraltro l'ha smentito con un'altra subito dopo. Giorgio Conte è un signore, oltre che un amico, per cui no, non ci credo. Senta, però è anche vero, signora Polidori, che lei dice che non ha mai detto che avrebbe votato la sfiducia a Berlusconi, però qualche incertezza c'è stata, perché lei la mozione di sfiducia l'ha firmata. Sì, ma non è questione di incertezza, la mozione di sfiducia io l'ho firmata in tarda serata, peraltro dando un ok al telefono, quindi non apponendo la mia firma. Beh, è uguale, però insomma. Validandola, diciamo, così, appunto, al telefono, che è uguale. Perché eravamo in una fase molto forte di tattica politica, questa cosa serviva a far giocare ad armi pari i due e soprattutto a dare i numeri esatti al presidente, che secondo me ancora una volta al presidente gli stavano dando dei numeri sbagliati. Presidente quale? Fini o Berlusconi? Berlusconi. No, perché dando dei numeri sbagliati, il gruppo doveva essere necessariamente compatto e questo poteva essere un elemento per arrivare a fare quello che il gruppo dei moderati, le cosiddette colombe finiane, ma anche le colombe PDL, stavano tentando di fare esattamente. Però è difficile, è difficile spiegare, per non andare alla conta che dal mio punto di vista ha fatto male a tutte e due. scusi un attimo, signor Polidori, però queste cose qui sono, sono tattica politica, cioè sono cose di puro tatticismo che la gente francamente non comprende. Cioè, lei, assolutamente. È che lei a voce, eccetera, aveva votato, aveva messo la firma sulla mozione di sfiducia. E insieme a me tutti quelli Vabbè. Che. Dopo ci ha ripensato, cioè c'è stato un tormento. Lei ha detto addirittura ha pianto, cioè c'è stato un tormento. Quanto tormento interiore c'è stato? Beh, il tormento ce n'è tanto per due motivi, perché. Ma è vero che lei ha pianto? Sì, sì. Ma quando? Prima o dopo? Prima, no, dopo no. Uno può avere un pianto anche. Vabbè, liberatorio. Prima, durante io la notte. Pianto, io pianto prima, ma la cosa curiosa è che io non l'ho detto a nessuno, pianto da solo e lo sapevano tutti. Avrò le telecamere nascoste da qua. Vabbè, qualcuno l'avrà raccontato, però, si va a dire perché. Ma altrimenti... no, sinceramente, probabilmente mi hanno visto con gli occhi un po' rossi. Insomma, credo che comunque ha pianto, la notte prima ha pianto. La sera prima. La sera prima, la notte, no? La notte magari uno dorme tranquillo. Bello, no? questa è la parte più bella della politica, però no, le lacrime. È un tormento vero, un tormento vero. Bello. È passione tutto politica bello. Vera, punto, non è altro. Beh, passione politica che in quel momento come dire, si divideva tra evidentemente una stima nei confronti di Fini e la volontà di non far cadere il governo, è così o mi sbaglio? È esattamente così e la ringrazio per averlo detto. Una stima e una lealtà nei confronti del presidente della Camera. Che però ce l'ha molto con lei adesso. Ma io non credo. No, lei dice non ci ha parlato con Fini. Beh, io non ci ho parlato, però mi ha scritto un gran bel biglietto e io sono convinta che lo abbia capito. Lei ha scritto un biglietto o lui l'ha scritto un biglietto? Lui a me. Che c'è scritto, si può dire? Scusi? Che c'è scritto in questo biglietto, si può dire? Così. No, è una cosa nostra. Se c'è una cosa che lui può sicuramente dire a tutti e che io anche la sera prima ho ribadito che non solo io lei si prenda al discorso di Mirabello anche a Mirabello le parole erano leali al governo Però insomma all'interno di Futura Libertà, onorevole Polidori, c'è qualcuno per esempio Barbareschi che dice che in realtà lei non ha avuto il coraggio di dire a Fini che non votava la sfiducia, cioè che era tormentata, prima ha detto Guardi, di sì. Uno come Barbareschi può saperne poco perché uno che ha il 40% di presenti in aula contro la Polidori che ha il 97% di presente probabilmente si è perso dei pezzi. Però bastonata a Barbareschi. Io l'ho sempre detto, ma non solo, a parte non l'ho mai detto a Barbareschi perché appunto non c'era mai, l'ho detto sempre a tutti gli altri e credo che gli altri glielo possano confermare. E dunque il tormento in realtà, scusi però qui era, era il dispiacere di non essere riuscita, nonostante tutti i miei sforzi e quelli dei miei colleghi, altri colleghi hanno deciso di seguirmi, altri hanno deciso di restare nel gruppo, pur con il dispiacere di non essere riusciti a fare quello che volevamo, a non far dividere due leader di centrodestra. Ho capito, però insomma questa era già una partita persa in partenza. Non guardi, dire. Per me no, perché io fino, lei saprà che ho firmato anche il documento del 16, appunto, e fino alla mattina, proprio fino alle 10 di mattina, con il mio collega l'onorevole Moffa, abbiamo tentato di nuovo, ultimamente, disperatamente, di non arrivare alla corte. Senta, lei farà il sottosegretario? Tutte e due. Lei farà il sottosegretario? Mi scusi, non l'ho sentito. Lei farà il sottosegretario prossimamente? Credo proprio di no, anche perché secondo me non ci sono posti abbastanza. In politica mai dire mai, mai dire mai. In politica mai dire mai. Ma lei lo farebbe, cioè se glielo dovesse offrire lo farebbe o no? Guardi, se mi dovessero offrire quello alla sanità, no, perché non saprei dove mettere le mani. Adesso. Se mi facessero parlare di azienda mi piacerebbe. Allo sviluppo economico. Allo sviluppo economico lo farebbe, insomma. Beh, sì. Sì. Credo di avere il curriculum necessario per poterlo fare. Ed è tra le possibilità, no? Tra le possibilità può succedere. Guardi, su un'altra cosa voglio essere chiara. Sì. Un attimo, signora Polidori, dopo il traffico mi può dire tutto, poi affronteremo anche la questione del così dibattuta, diciamo, del CEPU, cioè cugini, non cugini, parenti lontanissimi, non parenti, amici, vicini di casa, a tra poco. Vostri figli di stare a casa, quelle manifestazioni sono frequentate da potenziali assassini, vanno evitate. Che spettacolo, caro Parenzo! Che spettacolo. Cosa vuoi chiedere all'onorevole Polidori prima della questione Cepu, che vorrei risolvere velocemente, perché qui c'è... Ah, beh, no, certo. Prima della questione Cepu, le ore tormentate, come tu hai evidenziato, tra la notte e il voto, no? Perché quello che io vorrei capire è, oggi, che lei addirittura potrebbe entrare al governo con un ruolo di sottosegretario allo sviluppo economico, forse. Cioè, che cosa è cambiato rispetto alle critiche che venivano, indipendentemente dalla sfiducia, ma rispetto alle critiche che fino all'altro ieri ha condiviso, che Futuro e Libertà facevano al governo? Che cosa è cambiato da in questi due o tre giorni? E poi un'altra cosa, signora Polidori, lei era tra quelle che introdusse l'incontro di Bastia Umbra, se non sbaglio, fece proprio l'introduzione, cioè era una sorta di emblema della donna che introdusse il discorso di rottura di fili, insomma. Poi ha votato la fiducia a Berlusconi, per carità, lei è stata votata con Berlusconi, non è che c'è stato un cambio, eccetera eccetera, però insomma, cosa è successo? È questo che ci chiediamo, che è successo? Allora, partiamo dall'ultima. Io ho aperto il discorso di Bastia Umbria senza sapere, con me tutti gli altri, forse una persona solo lo sapeva, che fine il giorno dopo avrebbe chiesto le dimissioni del premier. Vabbè, come non lo sapeva? Assolutamente, cioè lui ha fatto tutto da solo. Fini. Io assolutamente sì. Ma lo avete applaudito tutti, non ho visto nessuno alzarsi. Scusi, quando ha detto Berlusconi si deve dimettere, lei che ha fatto? Applaudito pure lei? Un attimo, fa rispondere. Io sono rimasta incollata alla sedia, ci sono i filmati, tutti, non tutti, si sono alzate ad applaudire. Io sono rimasta esterrefatta, perché tutto mi sarei aspettato da quel discorso, visto che una settimana prima il presidente mi aveva nuovamente rassicurato che mai mi sarei trovata nella condizione di votare la sfiducia al governo, perché era la cosa che mi preoccupava di più da persona che si occupa di... Ma lei è stata chiarissima, dunque un po' frilla, fregata da questo punto di vista. Beh, Parenzo, più di una risposta così è chiaro, poi ognuno può dire. Non ho dubbi su questo. Fino a Bastia Umbra io ho condiviso un percorso che a me piace ancora, perché l'idea inizia, e guardi che anche il manifesto è meraviglioso, un gran bel manifesto, come non sottoscriverlo, voglio dire. Beh, insomma, un po' generico, l'idea però. L'idea iniziale di Future Libertà era un'idea vincente, era quella di fare da stimolo ad un centrodestra che si era addormentato. E invece poi? Scusi? E invece poi? Beh, invece poi secondo me ha degenerato, perché partire con, lei riprende i discorsi del presidente Fini, dicendo sempre leale al governo, leale, alla presentazione di Futuro e Libertà della convention di Bastia Umbra, tutti abbiamo detto leale al governo, il giorno dopo si chiedono le dimissioni. Senta, avevamo appena votato la fiducia del molti, Parenzo, chiudiamo questa cosa del CEPU, perché molti dicono che insomma dietro questa sua, quei suoi tormenti eccetera, ci sia la questione del CEPU. Ora voglio capire, insomma, sono cugini, sono parenti, qualcuno mi dice sono cugini alla lontana, stabiliamo questa parentela in via definitiva. Allora, io abito in un paesino di 32 anime residenti, e in questo paesino di 32 anime ci abita anche Francesco Polidori. Metà della popolazione di Città di Castello, forse più della metà, si chiama Polidori, come del resto tantissima gente a Roma. Probabilmente alla lunga, a memoria non ci arriva nessuno, ma probabilmente 7-8 generazioni fa saremmo partiti da uno stesso ceppo di Polidori. Al di là della parentela, che secondo me conta poco, e comunque non c'è, e basta fare un controllo all'anagrafe, al di là della parentela è una persona che io conosco bene, che la stimo, che non rinnego e non capisco perché è un grande imprenditore, una persona per bene, non capisco perché io debba dire di non conoscerlo, ma viva Dio, l'azienda della mia famiglia, essendo mio padre leggermente, lui è un coetaneo di mio padre, ma essendo leggermente più anziano di lui, è partita molto prima, azienda che peraltro 3 anni fa, quando io ho deciso di occuparmi di politica, mio padre ha venduto ed è in pensione. Quel famoso emendamento a favore del CEPU, adesso poi non andiamo a interpretare a favore o non favore, come ha considerato tale, lei l'ha votato o no? No, io non l'ho votato quell'emendamento. Parenzo, vuoi chiedere qualcos'altro su questo? No, quindi non esiste alcuna parentela, neanche cugino di sesto grado, ecco, va bene. Settimo, quindi la vicenda del CEPU non è minimamente legata alla... Un attimo, non vi sovrapponete perché non vi sentite. Allora, Parenzo ha chiesto, nemmeno di sesto grado, no, forse settimo, ottavo, dice lei. No, io non sono in grado di recuperargliela questa. Di certo non siamo, e non solo non siamo parenti, nessuno della mia famiglia ha mai lavorato in CEPU. Nessuno della mia famiglia ha partecipazioni, detiene quote della, cioè, ma famiglia anche allargata, dicendo anche fratelli, sorelle di mio padre, cugini, insomma tutta quella roba lì. Insomma, a lei non frega niente di fare un favore al CEPU, se di favore poi si tratta, naturalmente. No, però poi ha votato contro, cosa ha fatto? Quell'emendamento, poi uno fa le confusioni, non si trattava di CEPU ma si trattava di campus, e non c'entrava nulla di campus, cioè hanno preso veramente fischi per fiaschi. Peraltro le garantisco, io in quel momento stavo scrivendo, esattamente in quel momento, un mio emendamento sul decreto sicurezza che per le imprese, che era il giorno dopo, il giorno seguente. Va bene. Quindi senta, è quello che io sapevo. Senta, ma dunque lei non è, da quando ha la scorta sostanzialmente non esce più? No, diciamo che sono, che mi sento io un po' limitata, per me avere delle persone che mi aspettano mi fa un po', cioè non riesco, insomma, faccio un po' fatica, quindi limito le mie uscite al lavoro. Vabbè, ma durerà poco, speriamo, insomma. Speriamo. Grazie, buonasera, grazie, buonasera. Lei, buonasera. Caro Parenzo, che vuoi fare? Bruci la città. Bruci la città. Poi commenteremo Gasparri più avanti, c'è tempo. 800 24 00 24. Dove andiamo? Mario da Bologna, Gasparri. Tagliatemi, vi prego, tagliatemi, chi era il mitico Sansonetti, un pezzettino di Sansonetti, lo rivoglio. Ma Gasparri adesso francamente è difficile da commentare, perché dice delle stupidaggini talmente grandi che non... Adesso, poi fra l'altro lui mi pare che aveva gli assassini, lasciamo, come faccio a commentare una cosa del genere? Non, se no, però so, qualcuno... stiamo parlando del capogruppo del ma è Gasparri, degli esponenti più importanti. Bisogna stare attenti anche con le parole, capogruppo, insomma, cioè, è Gasparri. Quest'ultimo pezzo voglio, è Gasparri. Allora, no, c'è un ascoltatore che scrive: si vede chiaramente che applaude a Bastia quando Fini chiede le dimissioni di Berlusconi. Beh, là bisogna andare a controllare, perché non è che ci può gabbare a noi. Cioè, lei ha detto: sono rimasta esterefatta la signora Polidori, ferma, immobile. Dobbiamo fidarci, noi siamo garantisti. Noi siamo garantisti, però poi andiamo a controllare, non è che ci vuoi. Noi, a differenza di Gasparri, siamo garantisti. Ci puoi prendere per farlocchi. Poi andiamo a controllare. Mario da Bologna, allora, buonasera. Buonasera Cruciani, come sta? Bene, veloce però, perché abbiamo il giornale radio, poi la rimetto in onda. Le faccio i complimenti per la gestione dell'affare di Scilipoti, che era da comiche finali, complimenti, anche all'ottimo Parenzo. Scilipoti. L'altra sera volevo intervenire su quelli che potrebbero essere stati, insomma, i ragionamenti fatti sulla violenza in piazza, gli scontri. Basta che interviene adesso rapidamente. Mario, lei ha già perso 30 secondi tra complimenti. Voglio intervenire sui tafferugli, non ha detto niente. La rimandiamo dopo il giornale radio. 800 24 00 24. Rimandato, cartellino giallo, dopo. Siamo 19:18, Parenzo, dove ti trovi? Ci siamo. Sono, dove sono, vuoi sapere? A Milano, mi sembra, no? Sono carico da Sago, Lombardia Channel. Certo. Per la trasmissione di questa sera. 800 24 00 24. Beh, c'è grande casino anche a sinistra, non solo nel centrodestra, perché hai capito che vuole fare Bersani? Io non ho capito niente. No, io ho capito che qui a sinistra c'è uno scontro durissimo su chi conquisterà la leadership del PD. Allora c'è il povero Bersani che è schiacciato tra Nichi da una parte e dall'altra dai centristi. Farà la fine del cheeseburger, no? Dove ci sono proprio il formaggio del cheeseburger, c'è quel formaggio sottilissimo che alla fine non si sente neanche, perché la carne è da un'altra parte. È schiacciato. Però ho capito, ma tu hai capito questa proposta? Dice apertura al terzo polo e niente primarie, però nello stesso tempo con Vendola dentro. Per forza, perché non può decidere questo, se decide di andare con Vendola i centristi scappano con Rutelli, se decide di andare con Rutelli il PD si spacca e vanno tutti con Vendola. È un disastro, poverino. Non vorrei essere io, sarei un po' sui tetti col sigaro, perché così devi fare, devi prendere un po' d'aria fresca a capire cosa gira e come gira il mondo, perché no, ma da col sigaro bellissimo sui tetti lì a capire che succede, si può mica andare avanti così, cioè è terribile, è una situazione terribile. Ho capito, però come dice come dice giustamente l'ottimo Pierluigi Battista sul Corriere della Sera, insomma, è vero che ci sono delle regole e appunto bisogna decidere in politica, bisogna prendere qualche decisione definitiva. Non è che può ma dire. Come fa? Come fa? C'è chi, come Franceschini, che ti faccio ascoltare tra poco, dopo i titoli del TG3, dice che però bisogna fare come i partigiani, cioè bisogna essere tutti uniti contro Berlusconi, che è una sorta di. La famosa formula del Comitato di Liberazione Nazionale. Vabbè, intanto TG3. Napolitano, il paese vuole stabilità, basta contese, scioglimento delle camere, prerogativa del Colle, protesta, spia di malessere da ascoltare. Berlusconi, patto tra fini e magistrati, lo avrebbe detto in un incontro con parlamentari PDL, ma poco fa la smentita, barzellette, aveva risposto Fini. Gasparri nei cortei, potenziali assassini, genitori tengono i figli a casa, Bersani, parole irresponsabili, così si fomenta la piazza. Si è autodenunciato il giovane che al corteo ha colpito con un casco il 15enne Christian. Gli studenti preparano nuove proteste. Il governo Berlusconi frenò le inchieste sull'uccisione di Calipari, lo scrisse l'ambasciatore USA in un dispaccio diffuso da WikiLeaks. Il Papa torna sulla pedofilia, il volto della Chiesa nella polvere, dice siamo sconvolti, dobbiamo chiederci in cosa abbiamo sbagliato. Il Tribunale Civile di Milano ordina l'immediata consegna a 10 famiglie rom delle case del comune, prima promesse, poi negate. Beh, speriamo proprio che la città non bruci, mercoledì, per carità. Certo, Gasparri poteva risparmiarsela, diciamo la verità. Poteva risparmiarsela sia quella sul 7 aprile del 79 e non del 78 come ha detto, arresti preventivi per fermare i violenti, però io qui voglio fare, che è una stupidaggine perché comunque non si può fare, e poi se la polizia vuole fare irruzione nelle case di qualche tra virgolette estremista perché ci sono gli elementi per sequestrare, che ne so, bombe molotov o qualcos'altro, lo può fare tranquillamente con le disposizioni vigenti. E poi non è che uno le cose le dice, le si fanno le cose, perché no. L'appello ai genitori, ma che roba è? Ma veramente, secondo me, era meglio se andava a comprare i regali di Natale ieri, tranquillo, con la moglie, i figli, si faceva una pugnata in via del corso, stringeva un po' di mani. Ma la famosa sigletta di Gasparri, ce l'abbiamo, quella con la quale introducevamo Gasparri, via. A volte il Senato, la Camera, votano leggi che noi stessi che le votiamo non è che le capiamo bene. Ministro, sono stato io. L'ho fatto anche una legge, la legge mia si chiama Gasparri. No, scritta io, non ho manco letto, però si chiama come me, voglio dire. Mica mi posso ricordare tutto, dico un sacco di cazzate e poi non mi ricordo. Beh, insomma, la sigletta di Gasparri questa volta è appropriata a quello che ha detto Gasparri, soprattutto sui potenziali assassini. Ora, non è che bisogna sempre prendere in giro i politici, però insomma, in questo caso, potenziali assassini, può darsi che ci siano molti estremisti, eccetera, però queste cose non si dicono. Se uno vuole agire per impedire che le violenze avvengano, crea casino anche nelle forze dell'ordine che sono invece preposte lì, come dire, a gestire una piazza. Io mi immagino anche lo studente più pacifico che voleva rimanere a casa a studiare il latino e il greco, sente le dichiarazioni di Gasparri e dice in piazza voglio esserci anch'io. Ma è talmente evidente che vuol dire c'è delle regole. È evidente. È veramente evidente. No, pensavo ci fosse una intromissione, no, del professor Cacciari, invece no. Vabbè, no. Andiamo a sentire Gasparri allora. Gasparri solito. Ancora? Sì, per favore, lo voglio sentire ormai a IOS. Genitori, dite ai vostri figli di stare a casa. Quelle manifestazioni sono frequentate da potenziali assassini, vanno evitate. Gasparri come piovesse, e poi la chiusura di Sansonetti. Chiusura di Sansonetti. Bisogna stare attenti anche con le parole, capogruppo, insomma, cioè, è Gasparri. Direi che è perfetta la chiusura di Sansonetti, però attenzione, su brucia la città, su brucia la città, perché sempre di questo si parla, comunque di quello che può avvenire mercoledì, e non dovrebbe avvenire nulla perché trattasi di un passaggio parlamentare, della votazione di una legge per la quale non è necessario fare la guerriglia per strada. Ma il dissenso ci Ma certo, no? Ma è il nostro amico Santamaria. Santamaria è il nostro carissimo Santamaria, uno dei principali e più conosciuti attori italiani. alla Zanzara di venerdì, se non sbaglio. Eccolo qua, a voi. Non è che c'è bisogno che intervenga la violenza, ma una reazione così c'era da aspettarsene. Secondo me non è condannabile, assolutamente non è condannabile. Comunque, voglio dire, anche rivoluzioni più colte e più studiate, come la rivoluzione a Cuba, dice Guevara, adesso non per fare rivoluzione, però lui passava per i fucili. Sono entusiasta del fatto che gli studenti finalmente e le persone finalmente scendono in piazza e manifestano e esprimono il loro diritto alla vera democrazia, non la democrazia che queste persone qui, che sono i veri delinquenti, i delinquenti sono i parlamentari che hanno gli avvisi di garanzia a cui noi paghiamo lo stipendio, sono loro i veri delinquenti. E insomma abbiamo concluso poi con l'ambulanza, ti ricordi, no Parenzo, dopo queste come parole? Come dimenticare? Io metterei insieme, in una stessa stanza per 24 ore, Santa Maria e Gasparri insieme, farei un reality di un giorno. Potrebbe essere un'idea. Perché dicono... Reality Santa Maria Gasparri. Bene. Sciocchezze speculari, sciocchezze agli antipodi lo chiamerei il programma, ecco, sciocchezze agli antipodi lo chiamerei. Mario da Bologna voleva concludere il suo discorso, prego Mario. Quanto ho? Un minuto? Vada, non si preoccupi, okay. Vada. No, in realtà io volevo dire questo, in piazza è facile dire... Quando uno interviene, non è importante tre minuti, quattro minuti, basta essere efficace. No, ma non voglio portare via tempo. Anzi, io dare più uno riesce a stringere, più efficace è. Diciamo che la voce di una persona normale che ha 55 anni, che comunque quando aveva 20 anni faceva i cortei, della scuola, ci credeva, e quindi credo che bastonare, manganellare i giovani significa manganellare il nostro futuro. Ma che vuol dire? Se uno spara, se uno tira un sasso contro una macchina della polizia... No, sono deprecabili tutte e due cose. Ma non è la stessa cosa, la polizia può usare la forza, la gente per strada non la può usare la forza, abbia pazienza. Questo è vero, però è vero anche che in piazza poi non si sa mai chi comincia per primo, parte prima il sasso, Ma lei ha tutta l'ironia che io capisco e apprezzo. Ma non è il Cile, non c'è la dittatura, non c'è no, la repressione. No, però i poliziotti, alla fine la guerra dei poveri, cioè studenti e poliziotti, 1200 al mese con gente che non sa se avrà una pensione. Ma queste sono stupidaggini, Mario, stupidaggini. E le parodie di politici, in un paese democratico, quando la polizia scende in piazza. Un attimo ragazzi, non vi accavallate però, Mario, che cosa vuole dire? Io? Voglio dire semplicemente che comunque le violenze non sono mai giustificabili, però diciamo che è legittimo manifestare ed è legittimo registrare questo malessere della gioventù di oggi. Ma quale malessere? Non c'è nessun malessere, Mario, abbia pazienza. Per me non c'è nessun malessere. Sono una minoranza della minoranza, rappresentano il nulla. La minoranza della minoranza, lui dice gli studenti, ma quali studenti? Chi l'ha detto che rappresentano gli studenti? Chi lo sostiene? Perché secondo lei, Mario, secondo te, Parenzo, quello che stava l'altra sera, quel figuro che stava l'altra sera a Anno Zero rappresenta gli studenti? Ma se fosse così che... ci sarebbe da mettersi le mani nei capelli, non rappresentano nessuno! Cruciani, questi personaggi che si ritagliano una fetta di visibilità televisivo o quant'altro sono effettivamente quelle persone che le dice, e io credo che in tutte quelle persone che c'erano in piazza sicuramente qualcuno ci crede. Ma sì, ma certo, ognuno di loro ci crede. Io sto dicendo quelli che vanno in televisione, anche quelli che manifestano. Guardi che rappresentano una minoranza della minoranza della minoranza. Non sono rappresentativi del nulla, di niente. Niente, come dice Otelma di Parenzo, sbagliando naturalmente. Il nulla. Borsa. Sono così intelligente, forse leggermente più di quanto lei pensa, a rendermi conto di quello che ho fatto, e l'ho fatto nell'interesse anche dei suoi figli. Dov'è finito Scilipoti, Parenzo? Dov'è finito? Io voglio... Attenzione che mia figlia di 4 anni annuncia querela, eh? Perché? Perché ha detto che fa l'interesse dei nostri figli, queste scelte che ha fatto, e mia figlia ha detto devi querelare querela per Ciricopi, perché non c'è. Ma dove sei? Vuole, sei perché... in viva voce? Dove sei? Che ti sento un suono. No, sono dentro un bagno, ma mi senti meglio ora? Sì, sì, ti sento meglio. Comunque, io vorrei fare una Scilipoti story, seguire passo dopo passo. L'epopea di Scilipoti, io pure lo abbraccerei fortissimo. Scilipoti, ti abbraccio forte. Dove sei? Dopo averlo baciato, senti come ha ricostruito Parenzo sulla 7 il mitico bacio del sottoscritto a Scilipoti. Baciato da Giuseppe Cruciani a nome del fan club Scilipoti, nato in questi giorni, lascia l'entopede gli studi di Radio 24 con queste ultime dichiarazioni. Questa riflessione che lei ha fatto, 10 anni all'interno di un partito, che è l'Italia dei Valori... Che ha, diciamo, fatto dell'anti-berlusconismo una ragione, no? Sociale. Hai visto allora che ti comporti in modo scorretto? Perché prima mi dici che mi vuoi fare 2 domande, poi non mi vuoi lasciare andare e vuoi insistere... fammi la domanda, ti rispondo, poi tu taglierai e metterai quello che vuoi, come è normale, che fate tutti. Io ti rispondo con molta tranquillità. E che cos'è? E gli italiani dovrebbero chiedersi come mai, e se lo stanno chiedendo, Scilipoti dopo 10 anni abbandona un partito e prende una posizione che è diversa. E poi il bacio in diretta, eccolo qui, il bacio del sottoscritto, molto criticato, ho ricevuto mail, che orrore, che cosa terribile, eccetera, eccetera. Non avete capito niente, Scilipoti. L'ambulanza va, Scilipoti va. Ma va a finire che domani mattina ti troveranno sui giornali il mostro. Che mostro? Lo devo baciare in proprio. No, lo sta baciando. Per conto del fan club. Ambulanza per Cruciani, ha baciato Scilipoti. Hai visto che hai fatto entrare telecamere senza autorizzazione? Guarda che ti ha. Perché l'ha baciato. Si rende conto che Cruciani l'ha baciato? Ma dai, io mi rendo conto di tutto. Mi rendo conto di avere davanti a me te. Questa è la cosa peggiore. E poi il fatto che abbiamo baciato Cruciani. Scene agghiaccianti. A un certo punto Scilipoti dice le otturazioni nere fanno schifo, perché tra le tante battaglie di Scili, caro Parenzo, e c'è anche quella sull'amalgama, no, dentarie, e dunque mi ha visto un po' di otturazioni nere del passato, ha detto che schifo queste otturazioni. Parleremo delle amalgama dentarie, va bene? Grazie, ah, sì, questo è importante, fondamentale. Non è che ne hai qualcuna tu pure in bocca? Io tantissime, vedi un po'? Stai attento, avvicina. No, dai, non è che ti posso mettere le mani. Come in bocca. Sono? Ma visto, ma perché parli nere come sono? Nere come nere sono? Non vanno bene le amalgame. Nel senso, no, le amalgame dentarie. Bianco, nere. Come sono? Nere che cosa? Scusa, le nere? Non ho una fa una domanda. Nere, come sono? Non mi faccio un'altra domanda. Che ne so, scusa, ti posso guardare mai in bocca? Non ho capito. Ma posso guardare in bocca? Le otturazioni nere vanno bene o no? Ma se sono nere. Con mercurio. Se sono nere, scusa, posso dirle questa parola? Se sono nere, fanno schifo. Fanno schifo esteticamente. Scusa, ma perché non te li togli sti schifezzi? Ha ragione. È un vulcano. Dai, ma quale vulcano? Alla il vulcano prossima. Sei tu. Alla ancora. Prossima. No, grazie. Siete ciao, stati gentili. Va bene, 1937 800 24 0024. C'è una frase di Berlusconi straordinaria del weekend sul Corriere della Sera di sabato. Sapete perché sono sempre così carino con le signore? Deriva dall'anagramma del mio nome in latino, l'unico boss virile. Ma scusa, l'anagramma del mio nome in latino, cioè Silvio Berlusconi sarebbe, l'unico boss virile. Ha detto così, alla portavoce regionale Monica Faenzi. Sapete perché sono sempre così con i colori, signore? Deriva dall'anagramma del mio nome in latino. Cioè sarebbe Silvius Berlusconi, non ho capito, quale sarebbe il mio nome in latino? L'unico boss virile. Va, cercate di capirlo voi, mi rivolgo agli ascoltatori. Va bene, Carmine da Genova, 800 24 00 24. Buonasera. Buonasera, dottor Cruciani, complimenti per la trasmissione, grazie per lo spazio che dà a disposizione. Bene, ha perso 10 secondi, via. Ecco qua, volevo fare una domanda semplice. Secondo lei per violenza si intende soltanto un'azione? Cioè, perché penso che a volte assistiamo a violenze usate con le parole e non ultime le dichiarazioni di alcuni personaggi di spicco, per esempio del centrodestra, dove cioè, a volte la violenza la si può usare anche in Parlamento semplicemente con le parole o con l'applicazione di determinati tipi di leggi. Anche quelle sono delle violenze che il cittadino deve subire e senza neanche più dire no, io non voglio più che quella persona vada in Parlamento a fare quel determinato tipo di leggi, perché il cittadino è obbligato a dare il proprio voto. Sì, però Carmine, adesso sull'interpretazione della parola violenza possiamo passare tutta la notte a discutere. Però adesso non ne facciamo una questione filosofica. No, non voglio fare una questione filosofica, però entrambi sono condannabili. Ma entrambi cosa? Entrambi cosa? La violenza che fa il parlamentare o colui che parla usando, ma che violenza vuol dire? Cioè lei mette sullo stesso piano una parola sbagliata detta da Gasparri e quelli che tirano i sassi contro la polizia? Abbia pazienza, guardi, Carmine. Ma guardi che Gasparri non è un cittadino. Gasparri non, ho capito, Carmine, ma non è la stessa, non è comunque la, non è comunque la stessa cosa, non è la stessa cosa anche per il codice. Assolutamente, assolutamente, ma per un cittadino che lo ha votato e che si dovrebbe sentire rappresentato. Per esempio, lei prima diceva facciamo un reale di Santa Maria. Vabbè, Santa ma era una provocazione. Ci starebbe anche, perché peraltro io non sono d'accordo con quello che diceva peraltro l'attore. Comunque, alla fine però il discorso è questo, cioè Gasparri è un attore, può esprimere le sue opinioni condivisibili o non. E va bene, ne risponde davanti all'elettorato, ne risponde davanti ai cittadini, abbia pazienza. Potrebbe rispondere se io avessi la possibilità di decidere se mettere o non mettere il nome Gasparri. Lei ce l'ha comunque la possibilità, perché Gasparri è in una lista elettorale, certo, non è la No, io se voto quella lista elettorale. E vabbè, se Gasparri le dà così fastidio per le cose che ha detto, quella lista elettorale lei non la vota. Ma quella è violenza. Ma quale violenza? Su, quale violenza? Non diciamo stupidaggini, violenza. No, ma cos'è violenza? Scusi, cosa è violenza? Non ho capito. Ma se la stessa legge. Cioè, la legge elettorale è una violenza. Vabbè, ho capito. Sarà sbagliata, sarà un po' una porcheria, sarà quello che vuole, la violenza. Mi impongono una cosa, quante cose, dai, ormai è stabilito, è chiaro, è evidente a tutti che alcune cose. Scusi, però lei. Però mettiamoci d'accordo, Carmine, mettiamoci d'accordo. Le preferenze erano considerate nel 92, perché adesso questa legge farà anche schifo. Nel 92 le preferenze erano state, venivano considerate la cosa, il male peggiore che poi ci potesse essere. Cioè, hanno fatto un referendum contro le preferenze. È chiaro che succede la stessa cosa. Adesso è diventata invece questa legge in cui non ci sono le preferenze, ci sono le liste bloccate, anche questa è una cosa tremenda. Però è l'esempio chiaro di come anche facendo delle leggi o usando delle parole, comunque lo stesso si può fare, forse è un modo molto popolare, no? A volte con le parole si può far più male di... Sì, ma Carmine, siamo d'accordo che le parole, certo, possono contribuire. Non giustifica quello che hanno fatto, mi sembra ovvio, nessun tipo di violenza reale. Ho capito, lei vuole dire che anche le parole possono essere... Anche le leggi. Ma questo è ovvio, dire anche le parole, le leggi, che significa le leggi? Le leggi non è che... Anche fa delle leggi che riguardano determinate caste e non le persone. Ma questo ecco, per esempio il nocciolo che io volevo dire questo, che comunque ecco, appunto, cosa volevo bisognerebbe dire? Bisognerebbe arrivare ad ascoltare il motivo per il quale poi si arriva andare all'origine. Ma all'origine di che? All'origine di cosa? Della violenza, in questo caso per esempio del dissenso che c'è. Ma non c'è nessuno, Carmine, non c'è niente da capire. Qual è quella canzone, non c'è niente da capire? Rimandatemela fra un po', cercatemela. Non c'è niente da capire. Io li conosco, Carmine, io li conosco uno per uno questi qua che tirano i sassi, li conosco, li ho visti, ogni tanto li ho frequentati di nascosto. Si fermi un secondo, se no non capisco. Li conosco, è gente che vuole fare solo casino, che vuole tirare le pietre, è gente che odia lo Stato, odia la polizia, odia tutto. E io su questo sono d'accordo con lei. E basta, di che vogliamo discutere? Non c'è niente da discutere. Cioè non ci fa porre l'attenzione. Ma che ci distrae? Ma quando mai? Ma che ci distrae? Vede, noi ora, oppure la maggior parte di chi ha discusso di questo, ha parlato della violenza, di questi che hanno sbagliato, ma non del motivo per il quale gli altri erano in piazza. Ma come no? Se ne è parlato anche di quello. Vabbè, Carmine, ho capito benissimo. Adesso parola ad altri ascoltatori, voce ad altri ascoltatori. Lorenzo da Brindisi. Lorenzo? Lorenzo? Non c'è più. Lori? Niente. Alberto da Pordenone. Buonasera, dica. Buonasera, saluti a lei e al dottor Parenzo. Niente, io volevo sollevare una piccola questione. Allora, a prescindere dal fatto, sono d'accordo con lei, che Gasparri se la poteva risparmiare, così come se la poteva risparmiare in Santa Maria venerdì sera, queste uscite. Beh, diciamo, ci sono ruoli un po' diversi, eh? Certo, diciamo, questo... certo. No, no, a prescindere, sì, logico, dopo l'etichetta ovviamente ha il suo peso politico. Ma adesso non mi vorrà paragonare le dichiarazioni di Santa Maria a quelle di Gasparri. No, io volevo solamente sollevare tutta un'altra questione, che non ho avuto modo di seguire bene la trasmissione venerdì. Quindi, ma non c'è problema, Alberto, dica quello che io vuole. Io volevo dire che la trasmissione anno zero si è palesato il metodo Travaglio, nel senso che... Che c'entra Travaglio, potete, scusa. No, nel senso che non contribuisce a, diciamo... mettere pace a questo clima un po' di astio che si crea. Ma chi se ne frega, mica Travaglio deve mettere pace. Alberto, cosa, si fermi un attimo, però non è che mi dici mi lasci parlare un secondo. Nel senso che quando è stato cercato di zittire il ministro della difesa, che avrà sbagliato nei modi, nei toni, certamente, dicendo mi è arrivato un SMS dal mio collega di Milano che mi dice che lei, quando è stato ammazzato Marino con la bomba, era davanti al corteo, no, cercando ovviamente di dire, rivolto a chi, scusi, rivolto al ministro, al ministro La Russa, non so se ha perso il passaggio, nel senso, sì, questo sì, dimostra il metodo, che ha certa informazione, nel senso, io non ho molte volte il contraddittorio, sparo a zero sulle informazioni che mi arrivano. Va bene, ma adesso questo... il passaggio, il passaggio di Travaglio è interessante, per dire che quello che si può far leva dopo su opinioni, che d'accordo, gli studenti che tirano i sassi secondo me non sono studenti, e lo dico da studente. Che cioè non Travaglio, scusi un attimo, per far capire, dato che lei ha introdotto questo discorso, non ho seguito il passaggio, Travaglio rimproverava dopo un SMS ricevuto alla Russa di essere un movimentista, diciamo, negli anni 70. Di non poter parlare. Sì, perché anche lui faceva le manifestazioni, eccetera, sì, eccetera. Sì, certo. Vabbè. E lui, e lo stesso la Russa, l'ha, interrotto dicendogli guardi, io non ero lì quel giorno, di fronte al prefetto, eccetera. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che Travaglio utilizza utilizza questo metodo, d'accordo. Alberto, però non è che ogni volta uno parla e dice no, mi lasci finire, abbi pazienza. Travaglio utilizza questo metodo, anche tu facevi le manifestazioni, vabbè, insomma, trasmissione successiva, nel senso una settimana dopo, sì, sarebbe potuto intervenire, se non l'avesse detto in diretta, dicendo nel suo monologo che fa ogni sera, ascoltato dai più, dicendo il ministro La Russa una settimana fa non poteva parlare perché anche egli era... è l'opinione di Travaglio, allora di che parliamo? Non è un'opinione, è mala informazione. Ma perché mala informazione? Sarà l'opinione di Travaglio il quale, secondo Travaglio, La Russa è incoerente perché negli anni 70 era tra quelli che manifestava, e invece adesso... Ma è un'informazione scorretta. Sarà scorretta, lei la giudica scorretta, Problema è che questa informazione scorretta porta molti in piazza, non a tirare le pietre, per l'amor di Dio. Adesso che Travaglio istighi la gente a tirare le pietre. No, non ho detto questo. Ho detto solamente che comunque molta gente viene portata in piazza da idee facili che vengono messe sul piatto da informazione che... Sì, ma sarà anche come dice lei, Alberto. Sarà anche come dice lei, cioè che la gente va in piazza trascinata da slogan. Non c'è dubbio, è sempre stato così da che mondo è mondo, d'altra parte. Certo. Non è che si va in piazza perché c'è il ragionamento di Hegel o di dietro, chissà quale tipo di ragionamento, il professor Cacciari e tutte queste cose qua. Si va in piazza per slogan soprattutto, no? Su questo non c'è dubbio. Dopodiché, per rivendicare i diritti, per passione civile. Per tante cose, insomma, si va in piazza. Ora, che queste cose che lei dice di Travaglio possano istigare. Dico che è pericoloso, dico che è preoccupante, che non voglio fare il populismo sulla TV pubblica, queste cose non ci vanno, non ci stanno. Però comunque il discorso è che si va contro il populismo attraverso il populismo. Vabbè, d'accordo, ho capito. Grazie Alberto. 1948 800 24 0024, caro Parenzo. Questa sera, oltre alla signora Polidori che ci ha spiegato cosa è avvenuto, confini, la sfiducia, la fiducia, il discorso di Bastia Umbra, perché ha deciso di votare per Berlusconi, eccetera, eccetera, abbiamo un altro protagonista di questa settimana, un protagonista, era accanto al nostro amico Scili, nella famosa conferenza stampa dei tre della responsabilità nazionale. La responsabilità... Chi è secondo te? Chi è che abbiamo come ospite? Il signor Calearo o il signor Cesario, secondo te? Ma Canaro l'abbiamo avuto, l'hai invitato più volte. Secondo me è Cesario. Potrebbe essere Cesario. Bruno Cesario, buonasera. Buonasera. Come sta? Bene. Senta, ma lei è del movimento di responsabilità, sì? Esiste ancora questo movimento di responsabilità? Sì, sì, al momento esiste. Esiste, ma di quante? Di sempre in tre siete? Sempre in tre? Siamo sempre in tre. Sempre in tre. Ma c'è possibilità di allargare, come dice Berlusconi, come spera Berlusconi, oppure no? Speriamo, siamo fiduciosi. Eh beh, ho capito, dici qualche parola in più, perché si dice speriamo, un po' di entusiasmo, un po' di entusiasmo, sennò... siamo tre, ma anche pochi siamo stati utili alla causa, quindi siamo contenti di aver fatto salvare il governo e di aver votato, di aver determinato una stabilità nel paese, perché noi pensiamo dall'entusiasmo di Cesario mi voglio iscrivermi quasi. Beh, Cesario, scusi, però un po' più di entusiasmo, perché lei dice siamo tre a cantare. No, siamo tre, dice, ma sperate di allargarvi oppure no? Ma noi stiamo lavorando. Sta lavorando, lei è un gran lavoratore da questo punto di vista, cioè, sta cercando di allargare la squadra. Ma come fanno anche gli altri, lo fanno tutti. Tutti anche lo fanno, certo. I famosi puritani che si scandalizzano fanno peggio, penso che... Cioè peggio che cosa significa peggio? Peggio di quella conferenza stampa, signor Cesario, in tre, che all'inizio dicevate di non votare. Io ho sempre detto che votavo a favore. Lo so, però perché non vi siete messi d'accordo prima? Poi avete votato tutti e tre a favore, per carità. Ma loro, allora, gli altri due, perché Scilipoti aveva fatto una cosa da qualche giorno, quindi la sua scelta era... tormentata, più tormentata. Caleado, gioca. Caleado non era convinto, perché Caleado avrebbe detto che se il voto suo non era determinante si sarebbe astenuto, quindi ha sempre detto questo, tant'è vero che la volta scorsa lui si è astenuto, quindi e quindi abbiamo dovuto fare così, anche perché c'era la necessità di dire che Scilipoti usciva da Italia dei Valori, aveva fatto questa scelta, e noi siamo contenti anche perché nel momento che esce da Italia dei Valori scompaiono tutte le sue prerogative positive, diventa subito un mostro, un reietto, no? Un reietto. Senta, fino Cesario, a quel giorno era perfetto, nessuno se n'è accorto, guarda caso. E adesso invece è diventato quello, invece, il matto, diciamo, no? No, non è nessun matto, invece lui, no, sto dicendo nella vulgata. No, lui è simpatico, quindi secondo me ce ne siamo accorti, sì, ce ne siamo accorti. È molto simpatico, si riporta. Senta, ma dov'è finito Razzi invece? Lei lo so. Ha qualche contatto con signor Razzi? No, non ce l'ho. Niente, lei non tiene contatti con Razzi. Senta, ma lei sa perché Razzi è andato via? No, me lo dica, no, Cesario. Razzi, quando è stato eletto la seconda volta in Svizzera? In Svizzera mi ferma e mi dice: guarda, ma tu lo sai che è venuto l'Eurugo Orlando da me a chiedermi di dimettermi, perché anche se sono stato eletto con la preferenza mi dovevo dimettere, perché Di Pietro voleva che il primo non eletto subentrasse al suo posto. E come mai? No, quelli mi fanno eroe, hanno detto che mi fanno eroe nazionale del partito, faccio un atto generoso, grandioso. Dice: scusa, ma al tuo posto, perché Razzi è un operaio, è una persona per bene, ma è un operaio, è una persona modesta. Dice: ma al tuo posto chi dovrebbe subentrare? Forse un rettore dell'università, un professore, un medico? Dice: no, un pizzaiolo. Quindi, perché il partito riteneva che un pizzaiolo fosse meglio di Razzi. E chi era questo pizzaiolo? Un amico di Di Pietro? Probabilmente farà buone le pizze, però voglio dire, se questo è il titolo di merito per dire, vabbè, adesso la pizzaioli appena eletto, no, guarda, no, necessario, nei partiti ci fa, mi dispiace che sei stato eletto, peccato che sei stato eletto, però te ne devi andare. Questo Orlando gli avrebbe detto. Vicino a Razzi. Però si fane, immaginate un poco come ce li tengono i deputati, no? Con grande apprezzamento delle qualità personali. E da lì in poi, cioè, prendete, questo no, non lo so, io poi Razzi non lo frequenta. Non lo conosco, ma non l'ho visto poi. Ma secondo lei perché ha rotto? Solo per questo? No, la questione del mutuo, è vero o non è vero? No, ma no. io penso che gettare fango su queste cose, no, è il fango, lui, l'ha detto lui da solo, non è che gli ha chiesto, l'ha detto lui, non è che si è gettato fango da solo. Lui denunciasse, lui le ha smentite queste cose. Sì, ha detto che scherzava, sa, uno su queste cose. Lo dice, ma glielo dovete chiedere a lui, no, l'ha detto lui. Però è una cosa allucinante. Cioè cosa? Allucinante perché si sta criminalizzando solo una parte, alcune persone che hanno fatto. Fino a quel giorno Razzi era bravo, non teneva in muto, quell'altro era un santo, vabbè, era bravissimo, aveva fatto le cose. Adesso tutti quanti scoprono, Io penso un partito curiosa. Che perde 10 deputati si deve interrogare perché li perde. O no, certo, vabbè, non c'è dubbio. Però c'è da dire pure che queste persone, fin quando stavano nell'Italia dei Valori o in altri partiti, non se li filava nessuno. Quando uno cambia casacca ed è determinante per un governo, un'altra volta li valorizza. Ho capito, però quando uno diventa determinante, poi è normale che sia sotto l'occhio del ciclone, che abbia più attenzione anche da parte dei giornalisti. Io per quanto mi riguarda, la scelta l'ho fatta già a settembre, già da tempo io ho lasciato il PD, quindi io, a me è stato diverso rispetto a loro. Lei ha fatto un passaggio dal PD all'API. Lei deve sapere che ha fatto uno stop per la benzina all'API, diciamo. Sì, sì. Basta che me ne andavo dal PD. Ma come basta che sei andato? È stato eletto col PD. Cesare, è stato eletto col PD, scusa. Senta, io sono stato eletto nel PD, ma deve sapere che io sono stato candidato per non essere eletto nel PD. Ma come? Scusi, no, aspetti un attimo, Cesare. Sì. Scusi, lei è stato eletto nel PD con la lista bloccata, giusto? Con la lista bloccata, però mi hanno messo in una posizione dopo che io sono stato uno dei primi in Italia alle primarie, in percentuale come voti nel mio collegio. Mi hanno messo in una posizione che non potevo mai. Ah, la volevano fregare, dice, la volevano impossibile, fregare. Impossibile, cioè l'elezione poteva avvenire solo se la sinistra non prendeva deputati. Quindi, poiché dopo aver fatto il primo alle primarie, mi sono trovato gli amici degli amici degli amici, persone che se ne sono andate, persone da Roma, e poiché io vengo da un partito dove io ero vice segretario regionale, ho fatto il segretario provinciale del PP, sono stato sempre eletto col massimo di voti, io ho portato sul mio territorio il 40% della Margherita nel PD. Quando io me ne sono andato, il PD invece di prendere il 40 ha preso il 20. Vabbè. Quindi i voti non penso. Insomma, Cesario, la volevano fregare, non la volevano fare eleggere, invece poi lei, siccome c'è la sinistra estrema. Sono stati sfortunati. E perché non sei andato via subito, aspettato un anno dopo? È perché mi dovevo organizzare, perché nel momento che poi pensavo anche che il PD, il progetto nel quale abbiamo creduto fosse un progetto creduto mi sembra una parola. Guerre interne, nessuno dice la stessa cosa, non si risolve un problema. Vabbè. Io mi iscrivo al partito di quelli che risolvono i problemi. La gente la responsabilità nazionale, certo. Un attimo solo, Cesare, un secondo solo. La pubblicità. Seriamente il nome del partito. Ecco, parleremo poi. Da dove è venuto? Chi è che ha trovato questo nome? Movimento di responsabilità nazionale. È una mia curiosità, credo anche di Parenzo e degli ascoltatori. 800 24 00 24, pubblicità. E non c'è niente da capire. Non c'è niente da capire. 800 24 00 24. Che noi giochiamo a scacchi, mi dicono che stai vincendo e ridono da matti. Abbiamo il collegamento Bruno Cesario nel gruppo misto, componente del movimento di chissà che si possa allargare. Senta, ho letto da qualche parte che i rapporti tra lei, per esempio, e il signor come si chiama il nostro amico mezzo busto, ex mezzo busto, Pionati. Non sono poi così, perché insomma, ci sono una serie di gruppuscoli intorno alla, nella galassia, intorno al PDL. Li voglio ricapitolare, i Popolari per l'Italia di domani. Tu sai cosa sono, Parenzo, i Popolari per l'Italia di domani? Ma francamente, l'Italia di domani, non di oggi? Popolari per l'Italia di domani, così si... No, io conosco i Popolari Popolari di domani è il movimento creato dal signor Romano, giusto Cesario? Sì. Romano con Cuffaro? Romano. Romano Cuffaro, sì. Poi c'è il Movimento di Responsabilità Nazionale, giusto appunto, la DC per le autonomie di Rotondi, la DC tradizionale, quella del simbolo di pizza, del mitico pizza, e poi ci sono un gruppo di finiani delusi che non so che fine faranno, per adesso se creeranno un altro gruppo, Moffa, Siriquini, Polidori, no? Catone, eccetera. Poi c'è l'alleanza di centro di Pionati, ci sono i repubblicani di Nucara, e non quelli di Lamalfa, attenzione. Ecco, certo. Anche noi sud di Scotti c'è da considerare anche questo. Noi sud. Ora, è vero che i rapporti tra lei e Pionati non sono così buoni, signor? No, sono ottimi. Come ottimi? Sono ottimi, sono buoni. Io stamattina in un'intervista su Repubblica ho detto che vende un po' fumo. Vende un po' fumo, ma i rapporti sono ottimi. Beh, come, se uno dice quello che pensa, cioè, secondo me bisogna parlare un po' di meno, solo questo. Poi cioè, Pionati è simpatico. Pionati dovrebbe parlare un po' di meno, dice lei. E vabbè, sa, quello è fatto per parlare, sta là per parlare, sennò che, cioè, faceva mezzo busto prima alla Rai. Ma parlare un po' meno, che significa? Cioè, no, parlare un po' meno dei colleghi, cioè, perché veniamo tirati spesso in ballo da lui. Gli ho detto così, ma con Pionati c'è un ottimo rapporto, assolutamente. Vabbè, sì, certo, la politica poi è fatta anche di... Ma cioè, Pionati un po' troppo. Si dà un po' troppo da fare, lei dice, no? O no? No, per Berlusconi, dice, fa bene, no? Fa bene. Ma il reclutatore lo sa fare meglio lei o Pionati? No, io non reclutatore non in senso di... Io non ho fatto nessun reclutatore, perché Scilipoti è un amico mio e Caleara lo stesso. Con Caleara abbiamo fatto un percorso insieme. Quindi siamo stati insieme al di là anche della politica, abbiamo condiviso lo stesso fatto? Percorso. No, al di là della politica, stesso percorso. Fatto? Al di là della politica, perché siamo amici, le ho detto, ci sta anche un rapporto personale. Quindi non ci sta nessun reclutamento. Cioè, andate a cena insieme, dice lei. Siamo amici. Sì. Siete amici, vabbè. No, sono due persone molto diverse, siete due persone molto diverse, no? Di un'estrazione diversa, o no? No. Mica devono. No, per carità. Convivere per forza persone. No, mi stavo immaginando così, signor Caleano. Sì, una cena con Caleano, Scilipoti e Cesare, la cena del no, ci divertiamo tanto. Scilipoti che lo fa neanche parlare vediamo, il cameriere. Vediamo anche il giornalista lì. Chi? Sì, no, ci volentierissimo. No, ma noi veniamo volentieri, Cesare. Scusi, scusi un attimo, ma siete andati a cena insieme qualche volta, voi tre? Spessissimo. Vabbè, adesso lei ci sta prendendo in giro, ci sta un po' coglionando, come si dice. No, in giro. No, veramente. Che... Cioè, fate proprio comunella voi tre del movimento di responsabilità. E quando chiudiamo il gruppo andiamo a cena, no? Siamo tutte e tre. Quando chiudete il gruppo? No, quando ci riuniamo. Ah, quando vi riunite. A mangiare una pizza. Quante volte vi siete riuniti fino adesso del gruppo? Penso una decina di volte. Senta, ma a chi è venuto il nome del movimento di responsabilità nazionale? A me, perché visto che c'era l'appello di Casini, Fini, tutti quanti, la responsabilità, dobbiamo essere responsabili. Noi abbiamo detto facciamo direttamente il partito che si chiama Responsabilità Nazionale, così facciamo prima. Così fregate gli altri. Così loro vengono loro da noi, quindi abbiamo fatto la responsabilità, ci sta. Si rende conto del paradosso, Cesare, che voi vi chiamate di Responsabilità Nazionale e siete stati eletti tutti e tre per stare all'opposizione. Cioè capisce che anche nel nome del e la responsabilità nazionale sarebbe quella di far vivere il governo Berlusconi, cioè è uno simbolo meraviglioso, poi in politica va bene tutto ovviamente, però è come dire significativo, no? Beh, lui siamo stati eletti per fare l'opposizione, ma sono cambiate le condizioni politiche. Le condizioni perché PD dove siamo stati eletti, almeno per me, non c'è più quel PD. Doveva fare un'altra cosa. Beh, si può anche adesso non votare PD, la fiducia. Adesso il PD fa l'accordo insieme al Terzo Polo, Confini, quindi in Sicilia voi non vi scandalizzate che fanno l'accordo lombardo, che era il nemico da battere del PD con la Borsellino, adesso sono... Vabbè, lo sa quante cose ci sono? Ci sono tante contraddizioni. Tante. Noi l'abbiamo fatto e saranno poi gli elettori a giudicare. Io spero che al di là di questi che parlano, noi siamo stati eletti. Io sono stato eletto sempre con la preferenza nella vita mia. E sempre. Spero che nel 2008 no. Nel 2008 spero, no. Sempre nelle amministrazioni comunali sono stato quello sì. E spero che si introduca la preferenza. Invece questi che vogliono invocano la parola agli elettori la vogliono invocare solo al 50%. La proposta Bocchino 50%. Maggioritario 50%, beh, non è male però. No, 50% liste bloccate, quindi 50% dei leader o di quelli che non hanno neanche il voto loro si salva. Il 50% noi ci candideremo nei collegi, giustamente, e poi nei collegi blindati metteranno sempre gli amici degli amici. Quindi, senta, ma lei quanti voti ha preso in campagna? Deve dare la parola agli elettori, sì. Deve dare completamente, mettiamo solo la preferenza, basta questo. Quando diciamo questo scappano tutti, perché molti di loro neanche nel condominio verrebbero eletti. Tipo? Chi è che non verrebbe eletto nemmeno quel condominio? Non c'è bisogno. Me ne dica uno, vediamo chi viene eletto. Facciamo al contrario. Senta Cesario, ma Berlusconi l'ha ringraziata per questa Sì, l'ho incontrato dopo la votazione. Che ha detto Berlusconi? No, grazie, basta. Grazie, così. Ma una pacca sulle spalle, qualcosa? No, ci siamo salutati. Poi c'era confusione. Niente, una telefonatina dopo, no? No. Un ringraziamento un po' più corposo, diciamo, no, un po' più. Niente, grazie. Ma si aspetta il governo, ma lei si aspetta qualcosa? No, io non ho chiesto niente, l'ho fatto per la politica, perché penso che voglio continuare a fare politica. Ma si aspetta qualcosa, un sottosegretariato, un incarico, che ne so, qualsiasi. Magari, ma non magari, io sto con i piedi per terra e spero quello sempre. Che il governo vada avanti e con la testa sul collo, con la testa, come diceva Totò, si ricorda, i piedi per terra, la testa sul collo. Dobbiamo stare, volare basso, dobbiamo stare tranquilli. Volare basso sempre. Beh, volare basso, ha preso 84.000 voti alle regionali lei, all'API però. E i voti adesso all'API come si fa? Sono suoi o dell'API? Ma non penso che sono dell'ANA. Adesso ci saranno le prossime elezioni e vedremo di chi sono questi. Cioè, lui è questo tesoretto che si porta dietro sostanzialmente. Certo, tesoretto Cesario. Tesoretto Cesario. Si porta dietro i suoi voti a seconda del partito. Il tesoretto di Cesare. Certo. Tesoretto. I voti sono voti, mica. Guardi, i partiti. Sì. Ormai sono contenitori vuoti, senza idee. Lo so, ho capito, ma lei perché ci stanno i partiti? C'è solo un'idea che la gente ci chiede, di risolvergli i problemi. Le chiacchiere che a Napoli stanno parlando delle primarie e non si mettono d'accordo e le hanno rimandate. Le chiacchiere stanno a zero. Le chiacchiere non ci interessa, la gente non vuole il problema della spazzatura, il problema del lavoro, il problema dei figli, il problema economico. Certo, le chiacchiere non gli interessa. Uno di quelli che sta sul territorio, per carità. Cosa significa? Sì. Evidentemente molti non ci stanno. Le chiacchiere non le vogliono, la gente non le vuole più. Però ho capito, voi però avete fatto, ripeto, sta conferenza stampa. È venuta una come posso dire, una assuefazione da primaria. Ma adesso ce l'ha con le primarie. Le PDL tanto non le vogliono fare, chi ne frega ormai a lei? A me se, come le faceva il PD, le assicuro che io sono stato uno degli organizzatori. Ma senta, primarie, ma lei, Cesario, realmente, lei adesso sono uno di quelli che le ha organizzate. Resta nel gruppo misto, oppure volete ingrandire questo movimento di responsabilità nazionale, oppure pensa di entrare nel PDL? Ci sono le condizioni anche di fare un gruppo grande, mo vediamo. Andiamo avanti. Ci vogliono 20 deputati almeno. Non ci arrivate, mi sa, Cesare. No, già ci potrebbe essere questo numero, già ci potrebbe stare. Cosa? C'è un numero di 20 deputati, quindi dipende poi se ci sono le condizioni di fare un gruppo unico. Questo famoso gruppone tutti dentro, diciamo, tutti no? Dentro. Rotondi, pizza, eccetera. Pionati, vabbè, che bisogna fare così. Per prendere finanziamento pubblico, spieghiamolo. No, finanziamento pubblico, per prendere, sì, anche per ottenere... No, veramente, io sono per abolire il finanziamento pubblico. Rispondo al giornalista, io sono... Un attimo. Se la sottoscrive per abolirlo, io come apio ho fatto prendere un finanziamento pubblico in campagna... che l'ho all'API, come api. Me ne sono andato, lo prendono loro. E il finanziamento pubblico a me non mi interessa, anzi, secondo me è il vero scandalo dell'Italia e dovrebbe essere abolito. Quindi concordo con però voi fate voi, diciamo in genere il business della costituzione dei gruppi parlamentari. No, è solo nel fatto che quando uno costituisce un gruppo riceve un sacco di soldi, poi lei non sa che anche la componente riceve i soldi, quindi potrebbe convenire anche a fare la componente, più piccole componenti, quindi anche in quel caso uno potrebbe ricevere i soldi. il gruppo forse assottiglia ancora di più i fondi. Vabbè, lasciamo perdere questa discussione oziosa. Cesario, grazie, grazie. Grazie a voi. Andiamo alla pubblicità, 20 a 11, però è vero che se uno costituisce un gruppo, poi ci sono segreterie, cose, soldi in più, però no, ma è una serie di prebende. Ha scritto un articolo interessantissimo dicendo che se Di Pietro dovesse perdere altri due deputati, perde il gruppo, perde e il quindi gruppo. Perde tutti i finanziamenti. Ma dove? Al Senato o alla Camera? Alla Camera. Alla Camera. Pubblicità. Eccoci qui, non fatemi dire di più, altrimenti domani a Matrix cosa dico? Silvio Berlusconi scherza con i giornalisti al Quirinale annunciando che domani parteciperà alla trasmissione di Canale 5. Vicino al premier c'è Mentana, che fa una battuta sulla trasmissione da lui condotta per molti anni. A quel punto il cavaliere lo interrompe con un sorriso, ora rinnega la sua creatura. Chissà cosa ha detto Mentana in questa battuta su Matrix. Mentana, ora direttore della 7, contro replica. Non è vero, sono sempre legatissimo alla mia trasmissione. Il premier si inserisce di nuovo. Bene, posso andare da Matrix. Ho l'approvazione del più autorevole giornalista. Beh, vabbè. Tanta roba. 800, non gliene frega niente a nessuno, però. 800 24 00 24 a nessuno, forse neanche, a noi, forse. Neanche a noi, forse. Forse. Che pensiamo giustamente ad altre cose. E dove andiamo? La signora Marzia. Vieni, vivi e vinci, grande vinci. La signora Marzia da Roma. Sì, buonasera, signor Cruciani. Buonasera, dottor Parenzo. Sì. Faccio convenevole, dico che prima di tutto non è leale appropriarci alla canzone di De Gregori. Questa può essere una stupidaggine, ma non lo è. E non c'è niente da capire, perché De Gregori si sa è tutto fuorché delle vostre idee. Nostre idee quali? Che vostre? Come? Quali idee, scusi, vostre ha detto? Di destra. Di destra, bene. Sì, esatto, nostre. Bene. Sì. Andiamo avanti. Poi dopodiché lei, vabbè, lei fa la zanzara, quindi sì. Diciamo assume la parte più antipatica, no? L'avvocato delle cause perse, questo lo posso capire, no? Le cause perse, però, insomma. Speriamo di no, insomma, cause perse, non sempre, no, qualche volta, ogni tanto. Io capisco qual è il suo ruolo, qual sì. È il suo ruolo, lo fa anche bene. E invece Parenzo molto peggio, lei dice, non è... No, Parenzo, guardi, non si è un tono ironico, perché io io la capisco bene. A me Parenzo piace molto, non metto sullo stesso piano suo, che pure, ripeto, io capisco che lei fa questo ruolo. Vabbè, superiamo questa impasse. Sì, esatto, che assume questo ruolo di zanzara. Vabbè. Da qui però a dire che la minoranza, innanzitutto, delle persone sbaglia, cioè assumere come concetto che la maggioranza ha sempre ragione e la minoranza no, questo è un concetto, secondo me, limitato. Vabbè, ma allora, io non ho diceva? Detto questo, non ho detto no, affatto sì, questo. Lei ha detto io ho detto che questo. Quelli che scendono in piazza, siccome molti dicono gli studenti scendono in piazza, no? C'è questa generalizzazione. Non è vero, non è così, è una minoranza di certo, una minoranza di una minoranza. Allora, questo è anche un discorso di spazio fisico, non è che tutta la popolazione può scendere in piazza perché Piazza del Popolo non la conterrebbe. Quindi questo mi sembra logico, no? Non è mica per quello. Cioè, anche chi non ha partecipato magari è della stessa idea di quei ragazzi che hanno manifestato. Non è questo il punto, è l'idea. Guardi c'è un bel articolo scritto da Vittorio Macioce sabato sul giornale che rende bene l'idea di cosa voglio dire. Sostanzialmente lo studente di anno zero, scrive Macioce, diventa così lo studente. E nel suo nome si fa la rivoluzione. Chi non è come lui non esiste, o al massimo è un rimasuglio mediocre e meschino. Il corollario è che in Italia è scoppiata la rivolta studentesca. Qualcosa però non funziona. Basta andare in una qualsiasi università per vedere che lo studente è una piccola minoranza. È coccolato, fa scena, fa rumore, ma è un frammento. Poi ci sono i numeri. Alle ultime elezioni politiche la maggioranza degli elettori tra i 18 e i 25 anni ha votato a destra. 1,5 milioni sono del PDL, 1,5 milione della Lega, la destra ne ha presi 400,000, eccetera, eccetera. Insomma, poi continuo questo articolo. È la piazza che conta, il suo spirito metafisico. Le università sono in fibrillazione, la massa degli studenti delusa, insoddisfatta, senza un futuro, con l'orizzonte buio, provocata dalla riforma Gelmini, carica a testa bassa contro un potere illegittimo, contro il tiranno, contro il camano, contro il suppatore. Il problema è sempre lo stesso. Cioè, si dà troppa importanza a una minoranza rumorosa che non sarebbe una normale dinamica democratica, cioè una manifestazione eccetera, se poi non si tentasse lo scontro con la polizia, perché è solamente attraverso questo scontro, la linea rossa, daremo l'assalto ai palazzi, che si può fare rumore, ha capito? Perché i cambiamenti avvengono sempre con che cosa? La rivoluzione. Dunque lei giustifica le violenze, no? Dunque lei giustifica le violenze. Sì, io al limite sì, le giustifico limite, pure, sì. Perché la rivoluzione cubana e la rivoluzione francese comunque hanno portato a un cambiamento, che poi ci sia stato il ritorno dinanzi al regime, va bene, ma non si può dire che i cambiamenti non avvengono attraverso le rivoluzioni. Si stava qui, Non si può dire questo, per me sì, per me i cambiamenti avvengono attraverso le rivoluzioni. Ho chiamato l'ambulanza. Come me tante altre persone comunque. Sì. Per ritornare al discorso dei mi dia qualche coordinata, però a Roma dove la troviamo? Perché qui altrimenti le vetture si disperdono. Che quartiere è? Almeno il quartiere, poi diamo indicazioni più precise. Veramente di ridere non mi va per niente, perché ci sono persone che a Natale non mangeranno il panettone, il cotechino, mentre i parlamentari che dice lei costa 3 euro il panettone, che non c'è crisi e non c'è malcontento, se ne stanno. Vedi, hanno attaccato? No, che hanno attaccato? Sono sempre qua, Marzia, che abbiamo attaccato? No, perché sentivo un tutto strano. No, comunque, è Parenzo, è caduta la linea. Vabbè, abbiamo il traffico, signora. Ma che dice lei? Ma che c'entrano i parlamentari? Non c'è malcontento, è una minoranza. Ha detto che non c'è malcontento. Tanti sono disoccupati, cassa integrati, sì. Mentre i parlamentari hanno i loro privilegi e se ne fregano, e questo non lo può negare. Lo può assolutamente negare. Va bene. Traffico, grazie. Bruci la città e crolla il grattacielo. Bene, 800 24 0024, caro Parenzo, prima ambulanza. Ma come ti fa a parlare della rivoluzione? Prima ambulanza della serata. Prima ambulanza della serata, è arrivata alle 20:21, dunque andiamo meglio, diciamo, no? Sì, c'è un miglioramento. C'è un miglioramento Natale. Netto, direi. Mirko da Brescia, buonasera. 800 24 0024. Proseguiamo fino alle 21. Abbiamo ancora tante cose da farvi ascoltare. Una memorabile scenetta questa mattina in Parlamento con Rutelli che si sbaglia e insiste, ha sentito male, ma fra poco sentiremo tutto. Rivolto a un parlamentare della Lega. Mirko, buonasera. Ascolti, io avevo una domanda da rivolgere a lei e al signor Parenzo. Allora, si sta parlando di violenza da parte degli studenti, che c'è stata, per l'amor di Dio, nessuno la nega. Però mi chiedo, è più violenza? Studenti, poi bisogna vedere se sono studenti o no. Comunque, violenza. Quello lo lasciamo decidere a chi di dovere. Però la mia A chi di dovere, non è che lo decidono se sono studenti o no. Insomma, Non lo so io se sono iscritti all'università per adesso. Possono essere anche black bloc iscritti, non lo so. Comunque, la mia domanda è più violenza quella che fanno loro o è più violenza quella che è dentro il Parlamento di chi non ascolta? Sono due violenze diverse, io non lo metto in dubbio. Ma quale violenza? Non ci sono ambulanze in zona, Non ci sono ambulanze. A Brescia oggi non ce ne sono, Mirko. Purtroppo non... No, io la considero una violenza, perché chi... Mirko, le ripeto, guardi che se prosegue poi c'è bisogno di un intervento. Ma io, per l'amor di Dio, non giustifico nessuna, però mi chiedo... È violenza anche quella per voi o no? Ma quale violenza? Di che sta parlando? Di cosa sta parlando? Se io manifesto e lei non mi ascolta, è logico che... Ma che significa? Non è che ogni manifestazione deve portare a qualche risultato? Non è che sono una qualsiasi manifestazione di... No, mi scusi, Mirko, abbia pazienza, Mirko. Cosa significa questa sua frase? Perché lei dice, se io faccio una manifestazione e nessuno mi ascolta, poi cosa significa essere ascoltati? Cioè, tradurre in un progetto di legge o in una legge qualsiasi cosa venga fuori dalla manifestazione mi sembrerebbe bizzarro. Nessuno dice questo, ma se lei ha sentito il Presidente della Repubblica oggi, il Presidente della Repubblica ha detto che certi malumori vanno ascoltati. Sì, ho capito. Se la politica non li ascolta, o fa finta di non ascoltarli, o anzi reagisce in certo modo, come è successo con la Russa d'anno zero, oggi Gasparri, per lei è una violenza oppure no? No. Perché? Ma come perché? Questa è la mia domanda. Perché significa, lei fa un paragone assurdo innanzitutto con la violenza di piazza e non c'entra niente. Ma non è violenza, Mirko, non è violenza, è una dinamica normale, quella per cui la maggioranza parlamentare si assume le sue responsabilità come in tutto il mondo. Su, non diciamo stupidaggini. Se la Thatcher negli anni 90, alle 80, avesse accettato il diktat dei minatori che erano lì ogni giorno a protestare contro la dismissione delle miniere, l'Inghilterra di oggi sarebbe come la Grecia di qualche mese fa. Cioè, voglio dire, c'è delle regole, c'è un governo che è stato eletto regolarmente, ha fatto delle scelte che sono anche impopolari, per carità, ma se uno dovesse ascoltare tutti i rumori che vengono dalla piazza non governa più. Ascoltare la piazza vuol dire che infatti c'è un'opposizione che, come dire, si fa carico di rappresentare in Parlamento quei malumori. Qualche volta, insomma, qualche volta sì, qualche volta no, ma insomma, qual è il problema? Altra cosa è Gasparri, perché quello che dice Gasparri è, come dire, vabbè, non fammi aggettivare, va, perché... qualche volta deve venire anche da voi. Scusi? Perché se aggettiva lei, qualche volta deve arrivare anche da voi l'ambulanza. Infatti ogni tanto ce l'auto mandiamo. Vabbè, infatti ogni tanto l'ambulanza vale anche per noi, Mirko, per carità, ma non ci sottraiamo all'ambulanza. Però, sinceramente parlando, io non da studente, perché io non studio più, però da persona di destra, perché io ho votato, non lo metto in dubbio, PDL senza problemi, da persona di destra, oggi come oggi, mi sento sì molto deluso, perché vedo una politica molto distaccata. Bah. Poi che sia così per voi o non così per voi, ognuno al proprio pensiero. Vabbè, ok, distaccata da che cosa? Non l'ho capito. Distaccata da noi, distaccata dalle persone. Da voi. Perché lei invece 20 anni fa come la vedeva la politica? 10 anni fa? Più vicina? Guardi, io sinceramente, sicuramente sì, più non vicino. Ho una memoria storica come voi, non lo metto in dubbio. No, ma è con una curiosità, una semplice curiosità. Ma oggi, almeno per quello che posso vedere io, oggi, non dico come voi, però oggi la vedo molto distaccata da noi. Ho capito benissimo. Mirko, la ringrazio. Christian da Como, buonasera. Sì, buonasera. Magari mi mando un'ambulanza preventiva come segna Gasparri, così meno sono a posto. No, ambulanze preventive non ce ne sono. Certo, allertiamo. Como, state pronti, vicino a Como, perché ci potrebbe essere un'ambulanza in partenza. Ci potrebbe essere bisogno di un'ambulanza. Esatto. No, volevo fare un passo indietro sul discorso degli scontri. Facciamo un passo indietro, sì. No, sulle dichiarazioni, vabbè, quelle di Gasparri oggi ci facciamo una risata, insomma. Ma volevo fare un passo indietro su quelle dichiarazioni che erano state di un paio di giorni fa sui magistrati che hanno liberato. Esatto, sui magistrati che hanno liberato. Secondo me quelle sono passate un po' più in secondo piano, ma sono un po' più interessanti da analizzare, perché fatte poi anche da persone autorevoli come Alemanno. Sì, Cristian, devo dire la verità, su questo io sono d'accordo, per esempio al 100% su una cosa che ha scritto Filippo Facci, credo sabato, su Libero, cioè non si può essere garantisti a corrente alternata, se i magistrati hanno deciso che non c'erano le prove per incarcerare queste persone, non c'erano le prove, punto. Può sembrare strano, certamente, e può essere per qualche poliziotto che è stato intervistato anche dai giornali nei giorni scorsi un colpo, no? Il fatto che alla fine nessuno di quelli protagonisti delle violenze sia rimasto in carcere, questo sicuramente è strano, è una stranezza, ma non parlo dei motivi che hanno spinto i magistrati a liberarli, parlo anche del tipo di operazione di polizia che è stata fatta. Evidentemente hanno preso quelli sbagliati, hanno preso quelli su cui non avevano prove, non lo so, però lagnarsi di questo... Non ho letto Facci, però sono pienamente d'accordo, nel senso, poi cioè, fatte queste dichiarazioni da esponenti di una forza politica che si dichiara garantista a 360 gradi... Le dico di più, le dichiarazioni del Ministro degli Interni sono fuori luogo anche quelle, cioè quando il Ministro degli Interni dice dopo aver visto gli scontri, il livello degli scontri non si poteva non tenere in carcere, sono una frase del genere. Adesso, cioè, ma non è che i magistrati giudicano, giudicano in base alla gravità degli scontri se tenere uno in carcere o no, decidono in base alle prove. Ci sono delle regole, come diceva. Non è che uno è responsabile in solido degli scontri. Vabbè, siamo d'accordo su questo, Luis, siamo d'accordo. Quindi questo voglio dire, nel senso, non è che il garantismo vale solo per il politico che è, diciamo, perquisito per... Sì, ma adesso lasciamo perdere i paragoni con i politici, comunque sì. Non quando uno alcuni devono essere, come si dice, innocenti fino al terzo grado di giudizio, nel senso siamo d'accordo. Voglio dire, queste persone verranno anche processate, nel senso, va bene. La custodia cautelare non è che, quindi da questo punto di vista mi sembra questo attacco alla magistratura, insomma, mi sembrava un po' fuori luogo. Da lì poi c'è stato un po' un impazzimento, nel senso, secondo me, si è perso di vista un po' quelli che sono il punto della situazione. Poi Vabbè, Cristian, ho capito. Borsa 800 24 00 24. Parenzo, senti cosa succede al Senato, cosa succede al Senato, bisogna raccontarla questa vicenda, è una piccola cosa per carità, niente di particolarmente grave. Il senatore Bricolo, che credo sia il capogruppo al Senato della Lega, parla. Federico Bricolo di Verona. Federico Bricolo, senti, senti cosa dice. Gli arrestati con fatica da parte delle forze dell'ordine il giorno dopo sono stati tutti rilasciati dal magistrato buonista di turno. Dunque, hai sentito, no? Magistrato buonista, no? Buonista. Senti invece cosa ha capito Rutelli. Devo anche dire al collega Bricolo che definire un magistrato comunista, ma se lui ha degli elementi lo dica, altrimenti se lo risparmi. E secondo me anche il presidente di turno del Senato dovrebbe richiamare al rispetto, colleghi, dell'autonomia dell'ordine giudiziario chi prende la parola in quest'Aula, colleghi, perché si può criticare presidente Rutelli. A un certo punto intorno a Rutelli altri senatori cercano di richiamarlo. Ha detto buonista, non comunista, magistrati. Niente, problema d'audio, evidentemente. Problema d'audio, ha capito male. Però è la norma, cioè, siccome Rutelli ha ragione, perché è talmente abituato a sentire magistrati comunisti. A sentire magistrati comunisti, che quindi, come dire, ha interpretato così. Senza magari essere troppo attento alla voce di Bricolo, che però era abbastanza chiara. Magistrati buonisti. Io la devo salutare, direttorissimo. C'è una persona che preme sul mio corpo. Ma chi è, il dottor Aleotti per caso? Sto salutando il bocconcino. Il bocconcino sto salutando. No, vabbè, ma qui è una sorpresa. Una sorpresa dietro l'altra, è una cosa spettacolare. Guarda, è una scena agghiacciante perché ho il microfonino e lei si è avvicinata con la sua bocca. Una cosa, e c'è delle regole però. Scusi, Maiolo, signora Maiolo, dia un bacio, dia un bacio di quelli, no, di quelli forti. No, perché un bacio forte al signor Parenzo e poi mi venga a trovare qui a Milano in studio prima possibile. Sì, ma adesso gli ho dato un bacio sul collo, ma non ho usato di più, però. La moglie di Parenzo è avvertita, è tutta una gag, naturalmente. La moglie di Parenzo ci ha già autorizzato, C'è l'autorizzazione. Adesso sono incinta anch'io. Comunque. Senta, ma lei è ancora con dottor come incinta? No? Come incinta? Scusa. Ambulanza per la Maiolo, subito! Sono incinta anch'io. L'ambulanza. In che senso è incinta? So, per carità, come l'esempio della signora. Parenzo è così, se lo baci sul collo. gli parte subito la brocca a Parenzo. Senta, signora Maiolo, ma lei è ancora con Fini? È ancora con Fini, per curiosità? Io sono sempre con Fini. Sempre. Ma quando è che mi mette la mia musica? Era una zanzara in abito da sera e se l'era messo per fare. È un programma di informazione, Maiolo, questo. Io sono una giornalista, infatti. Sto facendo Io lo metto subito. Io lo faccio anche ascoltare, guardi, eccolo qui. Grazie, che carino. Non sono mai gradite, anche se sono in abito da sera e sul muro bianco. Ecco all'improvviso l'ombra di una mano, una grande mano. Ma la zanzara non è più spedita. Un bacio ancora a Parenzo, un bacio a Parenzo. Caro Parenzo, ma è una cosa. È tutto finito, ballava pure. È tutto finito. Bene, ma domani invitiamola qui in studio. Domani la invitiamo, sì, qui adesso glielo dico. A Milano, poi. Assolutamente, a parlare dell'universo mondo. Ciao, buona serata, 20:36, 800 24 00 24, Luciana da Mantova. Luciana? Buonasera, mi sente? Buonasera, la sento, cara Luciana, dica. Non so se sono tanto cara, perché è meglio che prepari l'ambulanza anche per me. Vabbè, ma c'è un'ambulanza per tutti, non si preoccupi. Sì, visto che la signora Maiolo si permette di passare di qua e di là, ancora, anche lei ha detto, sei ancora con Fini, vabbè. lasciamo perdere. Provi a mettere per cortesia, visto che ha preso per i fondelli la canzone di Gregori. Provi a mettere. Ma io non l'ho presa per i fondelli, la stavo utilizzando perché per. Sì, sì, sì, ha preso per i fondelli la canzone. Ma non l'ho preso per i fondelli la canzone, Luciana. Ma sempre... no, l'ha usata. Ecco, l'ha usata per prendere per i fondelli qualcuno, sì, ho capito. Certo. Sì. Ecco, adesso per cortesia, se volesse essere così gentile, prego. Provi a tirare fuori quella canzone di Modugno che diceva: siamo sempre tre. Due briganti ed un somaro. A proposito di Cesario, tre. Di Cesario, cioè. Ma sì, noi siamo pronti, per, abbiamo tutto a sarcasmo, sa? Ma abbiamo tutto a disposizione, eccola qui, gliela regalo. Benissimo, cara Luciana, gliela regalo subito. Grazie mille. Ma io non ho finito di parlare. Un attimo, adesso ritorno da lei, stia calma. Sia calma. Tre somari e tre briganti sulla strada longa longa di Girgenti. Lei naturalmente si riferisce ai tre, Scilipoti, Cesario e Calea. Io non l'ho detto, io le sono detto. Vabbè, l'ho detto io, l'ho detto io. Vabbè, Luciana, di che mi vuole parlare? Andiamo al sodo, sennò qui. Sì, sì, andiamo al sodo subito. Guardi, io ero a Genova nel 2001. E allora? Presente? Sì, sì, ho presente, più o meno. Insomma. Io ero in vacanza all'epoca e guardavo le cose da lontano. Meglio per lei, vabbè, comunque. Beh, maglietta, sì. Scarpe da ginnastica, sì. Pantaloncini corti, ho 54 anni e ce la stavamo, ci stavamo godendo il corteo, punto. Sì. Allora, siamo stati, le ripeto, maniche corte, scarpe da ginnastica, nessuna bandiera, niente di niente. Eravamo in un gruppo, siamo stati attaccati da di dietro e da davanti, tagliati in mezzo, cioè sì, isolati, attaccati con gli urticanti dalla polizia, schierata con un'antisommossa. Luciana, ho capito. Perché lei mi vuole ricordare questa sua esperienza a Genova? No, gliela ricordo. Di nove anni fa, più di nove anni fa, Luciana. Glielo spiego subito perché. Perché la lacrimogeni e urticanti, perché se non avessimo trovato una buona persona, una buona anima che ci ha aperto il cancello di un condominio, sì, saremmo stati segnalati. A parte che c'è un corso dietro giusto anche per le scale e ne hanno date una mano di botte a un ragazzo nascosto come noi dalla paura. Se fossimo stati segnalati come persone che avevano fatto qualcosa semplicemente perché eravamo in manifestazione, io personalmente credo che di non aver mai più nella mia vita la possibilità di manifestare in piazza. Se tutte boiate. Ma lei si riferisce alla proposta, per esempio, sì, del DASPO, certo, del DASPO, sì, certo, inapplicabile, chiaramente. No, sì, non lo so, perché con questo tipo inapplicabile, perché una, sì, cosa è controllare gli stadi, una cosa è controllare, diciamo, l'ingresso in una piazza, insomma, piuttosto complicato. Sì, però Corciani, lei ha ragione, però c'è qualcuno che sta in Parlamento e che l'ha proposto. Sì, sì, tutto? Luciana, per carità, ma fa parte di quelle, allora, di quelle cose che si dicono in libertà, parole in libertà, insomma. Parole in libertà il ministro degli interni? No, il DASPO credo che sia stata una. Beh, il ministro degli interni, no, può dire anche delle parole in libertà ogni tanto, succede. No, invece istituzionale mi dispiace. Non dovrebbe accadere, certo, Luciano, non dovrebbe accadere. Ah, ma... boh, siamo d'accordo. Sì, certo, che siamo d'accordo. Ecco, sì, non so chi l'ha proposto per primo. Non ricordo chi l'ha proposto per primo. Se Maroni o Mantovano, adesso non ricordo. Comunque, insomma, ha ragione. Certamente una proposta. Comunque ho detto segretario pure lui. Quindi sì, sta. Però è un dato di fatto: è un dato di fatto, Luciana, che devo dire la verità, che all'estero, ma all'estero io dico in Francia, in Spagna, eccetera. La reazione delle forze dell'ordine nei confronti dei manifestanti è sempre molto molto più dura rispetto all'Italia, non ci dobbiamo, allora, stupire. No, così dobbiamo, per dire. Dobbiamo confrontarci con chi? Con quelli che stanno peggio? No, ma voglio dire, bisogna stare. L'altro giorno una delle poche cose corrette che ha detto la Russa durante Anno Zero nei confronti degli studenti, una delle poche cose che ha detto correttamente, è stato quando a un certo punto ha risposto a uno di questi studenti sostenendo questa tesi: noi purtroppo, diceva la Russa, abbiamo un problema con le nostre forze dell'ordine, cioè mettiamo dei vincoli, forse troppi vincoli alle forze dell'ordine, altrimenti vi spazzerebbero via in due minuti. Adesso lasciamo perdere il tono in cui l'ha detto la Russa. Guardi, che era un tono di sfida. Cruciani, non offendiamo però, le nostre intelligenze, però è vero, però è così, perché? Però è così, no, in piazza, così, Luciana, tutti... un attimo solo, in piazza sì, soprattutto dopo Genova sì, le direttive date alle forze dell'ordine sono di grandissima prudenza, io non dico se è giusto o sbagliato, non lo so, Però fatto sta che la situazione è questa, cioè assistiamo a una situazione per cui delle persone si possono permettere di tirare sassi, bastoni, di affrontare anche apertamente le forze dell'ordine senza che ci sia, almeno nel primo, diciamo, per una mezz'oretta, se non di più, per una buona parte della, di questi tafferugli, una reazione forte da parte delle forze dell'ordine. Questo, allora, questo per precise direttive, ha capito Luciana? Per evitare scontri, per evitare le cose del passato, eccetera. Benissimo, per farci dimenticare quello che hanno già fatto, oppure per prudenza, va bene, gliela passo per in buona fede questa storia qua. Lei lo sa che in fianco, adesso non mi ricordo più se Montecitorio o Palazzo Madama, quel giorno lì della, della manifestazione degli studenti, hanno fatto talmente prevenzione chi doveva farla, adesso non so se tocca la polizia, se tocca la Digo, se tocca chi tocchi, che c'era un camioncino, sa quelli dei muratori? Camion aperto, sì, allora? Col cassone dietro, c'era questo camion pieno zeppo di pale, di mattoni, di tutto, di picconi. E dunque? E chi doveva fare? E dunque, secondo lei, un po' di prevenzione non la potevano fare invece che bloccare chi voleva andare sotto, guardi, al nostro Parlamento, sì, a dire sì. Ma che bloccare? Cosa significa bloccare? Qui la cosa folle, la cosa folle di questi giorni, Luciana, è che ancora si continua. Ho usato un termine sbagliato. Scusi un attimo, non permettere di arrivare davanti al Parlamento, davanti al Senato, davanti alla Camera. Per dire no, non siamo d'accordo. No, scusi Luciana, abbia pazienza, qui non c'è nulla di pacifico. Si vuole arrivare, scusi un attimo, si vuole arrivare davanti al Parlamento per affrontare la polizia, questo è il punto, per scontrarsi contro la polizia. No, è così, perché qui no, ma guardi, non sono affatto prevenuto, io conosco queste persone una per una, le conosco tutte. Ma che c'ero anch'io, buona Luciana. No, ma le conosco, quelli violenti li conosco tutti, so da dove vengono perché lo sanno tutti le persone che lavorano su queste cose. Ripeto. Sono dei delinquenti che vogliono solamente la violenza. Ma non sto parlando di chi fa le manifestazioni, Luciano, non sto parlando di chi fa le manifestazioni. Sto parlando di quelli che sono con i caschi. Quelli che sono con i caschi. E le dico di più, chi va a manifestare con i caschi? Chi va a manifestare con i caschi dovrebbe essere fermato subito. Questa è l'unica cosa da fare. Ah, siamo d'accordo, vede, chi manifesta con i caschi, con i volti coperti, fermato subito, immediatamente. Solo che anche lo sa cosa facevamo a Genova quando vedevamo fare una cosa del genere, Luciana, fare una cosa del genere è pericoloso, perché poi si innesca una reazione. Questo è il punto. Mi permette? Prego. Ritornando sempre a Genova, solo per farle l'esempio, avevamo, ogni tanto si infilava nel corteo qualche ragazzo con il passamontagna. Sa cosa facevamo noi educatamente, democraticamente? Scopriti. Sì, non mi pare che avete avuto e molto successo, però, mi scusi. No, Luciano, non parlo di quelli beh, ho capito, ma insomma, quelli sono rimasti sia perché con i caschi. Che si mischiavano noi. Non mi sembra che le persone pacifiche a Genova abbiano fermato i violenti. Comunque, lasciamo perdere Genova, non me ne frega niente strumenti a nessuno. Di fermare. Siamo c'è stati il traffico. Grazie, traffico. Ai vostri figli di stare a casa. Quelle manifestazioni sono frequentate da potenziali assassini, vanno evitate. Bruci la città, viva nel terrore. Bisogna stare attenti anche con le parole, capogruppo, insomma, cioè, è Gasparri. Non commento mai le dichiarazioni del presidente Gasparri. Come te io non posso che ammirare, non posso non gridare che... Di cosa stiamo parlando? Sul mio cuore per proteggerti dal male che vorrei poter cullare. Siamo qui 20:47 800 24 0024, questa è la Zanzara. Pietro da Milano, buonasera. Pietro. Pronto? Sì. Sì, buonasera. Dica. L'unica cosa che volevo dire è che ormai l'Italia, secondo me, è divisa non in due ma in tre. In che senso? C'è il Parlamento e poi ci sono italiani che sono contro Berlusconi e quelli a favore. Sani continua ad andare sui tetti e volevo dire che nel 93 abbiamo fatto un referendum contro i rimborsi della politica delle elezioni. Sì. L'ultima volta che hanno votato, grazie a Giannino che ho sentito tre settimane fa, hanno detto che per esempio il PD, sì, invece di 18 milioni di euro di rimborsi se ne sono beccati 180. No, che significa allora, invece 18-180, mi scusi? Così, se sente la puntata di Giannino. Sì, ho capito, rispetto alle elezioni precedenti. No. Di questa tornata elettorale. Sì, ho capito, rispetto alle elezioni precedenti forse, avendo preso un sacco di voti, adesso non so quale fosse il ragionamento di Giannino. Comunque, insomma, lei vuole dire che il vero scandalo, eccetera, eccetera, è quello del finanziamento ai partiti, una vecchia questione. No, non è finanziamento ai partiti, lo scandalo è che Bersani va sui tetti dicendo che non ci sono i soldi per gli studenti quando sono i primi loro a prenderli, a prelevare dei soldi. La ricerca. Sì, no, poi tra l'altro Pietro, no, al di là adesso della questione del finanziamento, i soldi li prendono tutti i partiti. Ci fu in quel frangente, nel frangente della scalata ai tetti di Bersani and C, c'erano anche alcuni futuristi, se lei si ricorda bene. C'era in votazione, credo, un emendamento presentato, non mi ricordo bene da chi, alla Camera per dirottare una parte del finanziamento ai partiti alla ricerca. Ebbene, insomma, con un voto trasversale questo emendamento è stato bocciato. Pietro, la ringrazio. Dove andiamo? Andiamo a Firenze. Massimiliano, buonasera. Buonasera. Prego. Accendete la croce d'oro perché mi ci vuole anche a me, mi sa. L'ambulanza quella vera, insomma. Sì, perché? No. Perché no, l'ambulanza? No. Non chiamiamo l'ambulanza, ce ne sono poche. Lo so che scherzo. Mettiamo, cioè, dal mio modesto punto di vista, leviamo la testa da sotto il tavolo, nel senso che buttare giù una vetrina sia un atto stupido, imbecille, fatto da delinquenti, bisogna darlo per scontato. Beh, insomma, non mi sembra che in questi giorni una certa parte dell'intelligenza abbia tuonato contro i violenti. Serve per spostare anche un po' il punto di vista e spostare il problema senza parlare delle cose serie. Se si mette la testa sopra il tavolo, secondo me. Che significa la testa sopra il tavolo? Scusi. Cioè, guardare le cose serie. Ah, ecco, la testa a posto, cioè sul collo, insomma, non sotto il tavolo a parlare delle cose inutili e del nulla, perché che quelli sono degli imbecilli è evidente. Però il fatto, ripeto, non è evidente per tutti. Comunque sono contento che lei dica che sono degli imbecilli. Insomma, secondo me, se una persona è obiettiva, lucida e intellettualmente onesta, deve dire che un atto di violenza è una stupidità. Però mi ricollego alla telefonata che ha fatto. No, c'è anche una violenza, quella contro il tiranno, Massimiliano. In generale, nella filosofia politica o nella scienza della politica esiste, per esempio, una violenza che uno può anche considerare legittima, che è quella contro il tiranno, contro un regime dispotico. Non si tratta. Beh, certamente non è così. Di una tirannia. Guardi, qualcuno lo sostiene. Qualcuno lo sostiene. Per esempio, le faccio ascoltare senza fare un volo troppo pindarico, le faccio ascoltare quello che ha detto Franceschini, uno dei leader del Partito Democratico, che è stato anche segretario del Partito Democratico. Come no, può aggiungere quello che vuole. Grazie. Franceschini parla di partigiani, cioè bisogna comportarsi come i partigiani. Quando si parla di partigiani è perché evidentemente si pensa che c'è una dittatura in corso, e dunque i partigiani, sentiamo. Quando le nostre madri e i nostri padri si trovarono sulle montagne a fare la resistenza, prima di fare le azioni delle brigate partigiane, non si domandavano tra di loro un momento, prima dimmi se sei liberale, se sei comunista, se sei democristiano, se sei per la monarchia o se sei per la repubblica, se dopo le elezioni sarai per il sistema proporzionale o per il sistema maggioritario. Prima liberarono il paese, poi iniziarono il confronto e lo scontro politico tra di loro. Ecco, questo è un genio dell'opposizione, ha capito? Cioè, questo è il ragionamento di grande finezza intellettuale. È il vice disastro. perché lasciamo... Cioè, questo signore, Franceschini, sostiene che bisogna fare come durante la guerra, dunque bisogna unirsi tutti quanti contro Berlusconi. È una bischerata. No, è una stronzata, non è una bischerata. Sì, io, no, però comunque, insomma... Dico l'ultima cosa e poi tolgo il disturbo. Sì. Però io parlo da elettore del centrodestra, parzialmente deluso, infatti le ultime magari no, però la sterzata che ha dato Fini secondo me ha un valore, ha un senso logico. Allora? Però al di là di questo mio discorso, che è una questione personale, quello che dico è che c'è comunque, mi ricollego a un ragazzo di prima che diceva che la gente è inascoltata. Io farei un passo in avanti nel dire che non è un problema di essere inascoltati. Il problema è che ci sono referendum che sono stati votati in una certa maniera e non sono stati presi in considerazione. Ci sono raccolte di firme che sono ferme da anni in qualche ufficio, ancora in qualche scatola, che non vengono presi in considerazione. Sì, però Massimiliano, per esempio i radicali su questo argomento dicono che c'è una violenza nei confronti della democrazia, parlano di regime, non solo per questo naturalmente, io francamente non sono d'accordo, glielo dico subito, questo non è regime, però ci dovrebbe essere, secondo me, da parte di chi sta lì dentro un po' più di attenzione. Questo senz'altro. No, ma sicuramente, lasciamo perdere la raccolta delle firme, la difficoltà nella raccolta delle firme. Sicuramente il fatto che si votino dei referendum e poi i risultati di un referendum vengono sostanzialmente ribaltati, come è accaduto nel caso del finanziamento ai partiti. Questo... La privatizzazione della RAI, insomma, ce ne sono stati diversi. Allora non li facciamo. Anche se poi i referendum, come lei sa, in Italia sono abrogativi, dunque si abroga semplicemente un articolo di legge, una legge, e poi questa legge si può tranquillamente riproporre come se niente fosse. Grazie, Massimo da Torino, velocemente perché dobbiamo concludere. Buonasera. Pronto, buonasera. Salve. Dica. Volevo dire che volevo inserirmi sul discorso che è stato fatto delle violenze. Sì, veloce, Massimo. Io sono a casa influenzato, ho visto vari telegiornali, sono rimasto sconvolto perché su Rai 3 ho visto dei servizi di Ureport TV, sì. Ho visto i poliziotti che calpestavano degli studenti. Sì. E sinceramente sono rimasto sconvolto, nel senso che io per niente, perché è normale. Ma no, guardi, Massimo, no, non è normale. In teoria, in un mondo ideale, Massimo. No, ma ha detto di parlare veloce, faccio subito. No, in un mondo ideale, i poliziotti non dovrebbero usare la violenza se non quando strettamente necessario. Comunque non dovrebbero oltrepassare certi limiti. Certo, vedere uno manganellato per terra non è bello. Però è quello che succede da che mondo è mondo e da che esiste una manifestazione. Qual è? I latini dicevano summum ius, summa injuria, che significa che quando si vuole affermare questo grande diritto si va a realizzare un'ingiustizia. Che significa? Mi sta bene che si picchiano coloro i quali con i caschi, le stranghe distruggono. Ma non in maniera indiscriminata, dice lei. In maniera indiscriminata. Ho capito. Punto, qual è il problema? Dobbiamo chiudere, Massimo, grazie, a domani 18:30, ciao. La zanzara, il titolo più di merda del mondo. Soltanto tu potevi inventarti un titolo del cazzo come quello. Soltanto tu. Ricordati che devi morire. Come? Ricordati che devi morire. Va bene. Ricordati che devi morire. Sì, sì, no, mo me lo segni proprio. C'è una cosa... Non mi preoccupare. La zanzara.